Buonasera, spero di non disturbare il suo lavoro così importante per la pace. Amica, è Ra della Zanzara. Sono il Santo Padre. Qui alla Zanzara fanno sempre questi scherzi. No, sia guardi, Cruciani, non, sia non è uno scherzo questo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Propongo una colletta per pagare a Parenzo un corso di insulti, così la smette di rispondere sempre le stesse cose a quelli che lo chiamano, e il cornuto, e il cretino, almeno gli diamo un ventaglio di insulti un po' più variegato, perché adesso effettivamente ha rotto il cazzo, In tutti i discorsi che fai hai la capacità di stravolgere la logica. Ma che c'è in testa? Il criceto sul tapirulana? Animalisti, fatevi due domande, fate qualche riflessione su quello che state ascoltando. Un grande amante degli animali, uno che cura gli animali dalla mattina alla sera, 24 ore su 24, lo sai chi è diventato, caro Parenzo? Sei uno che si occupa quotidianamente e occupa tutto il suo tempo. Prima era al Consiglio regionale della Lombardia, ti do qualche indicazione. Adesso sei invece molto tematico ormai questi animalisti. No, ma mi è venuta in mente questa cosa qui. Animalisti, fatevi due domande. Sentite chi è. Io ho iniziato nel 2012 questa avventura dell'azienda agricola con mio fratello, un'avventura diversa, un'avventura legata alla natura, un po' diciamo riavvicinarsi al territorio, a quelle che sono le nostre tradizioni, una bella avventura che stiamo portando avanti con tanta forza e voglia. Signor Renzo Bossi, Renzo Bossi, amico mio, senti. Alla politica ci pensa? No, l'azienda agricola è un lavoro molto impegnativo, gli animali vanno seguiti 7 giorni su 7, siamo sempre in azienda, quindi assolutamente no. Non la segue nemmeno, quindi? No, in questo momento no. Gli animali vanno seguiti 7 giorni su 7, dice Renzo Bossi, che adesso si dedica ai criceti, ai conigli. Forse azienda, li ammazza però, forse li ammazza. L'azienda agricola che c'è, ha appena comprato, dico questa notizia, il Sole 24 Ore. Ma che abbiamo c'entra? Comprato con l'azienda agricola. Cosa? Abbiamo fatto la scalata al Sole, siamo i nuovi editori. Ma della non radio, è vero. Radio 24. Ma che dice? A casa, a Barisoli, tutta questa gente qua che parla, che fa sempre uccelli di malaugurio. C'è Renzo adesso con la mucca, l'azienda agricola ha rilevato con notizie di mercato. Ma ci sono dei conigli anche, ci sono dei conigli. Pieno di conigli, solo conigli. Ma li ammazzate o no? Conigli, te ammazziamo adesso intanto. Quello che hai fatto al coniglio farai quella fine lì tu. Come abbiamo già parlato con tutta con la famiglia Bossi, tutti. Via, il primo a andare via Barisoni, via. Perché basta con le notizie di mercato, non servono. C'è una notizia della Padania adesso di nuovo. notizie da Pavia, dal mondo dell'agricoltura. Territori, agricoltura, Confcommercio, Confartigianato, come si chiama quella? Confagricoltura. Ecco, una trasmissione di Aremo a Confagricoltura. Tutta in diretta con la terra, come si ara la terra. E gli animali? Gli animalini. Facciamo una rubrica, la daremo ai gatti. Solo gatti che parleranno in diretta con gli ascoltatori. No, ascoltatori ma... che sei, sì, ma non no. Basta con Barisoni. Finita un'epoca. Andate a casa, tutti voi, tutti. Al posto della zanzara c'è una mucca, ci sarà. Fino diretto con capito, la mucca. E i telespettatori chiamano, la mucca fa poi c'è Bossi e mio figlio che è uguale alla mucca, quindi non ci sarà nessuna differenza tra la mucca e filo diretto. Allora proposito di banche, circola molto in queste ore un video della Boschi quando c'era il caso Cancellieri. Sì, vabbè. Perché? Beh, non c'entra niente. Sì, anche secondo Però me non c'entra confusione, nulla. Confusione, depista, depista vabbè, dai fatti veri. Adesso tu difendi la Boschi a spada tratta. No, dai. Tutt'altro. Ma quel fatto lì depista dai fatti veri di cui spero parleremo dopo. La Boschi. Dei conflitti di interessi veri. Non veri. Sì, assolutamente. Quello depista quel fatto. A novembre di non mi ricordo quale anno, disse una cosa a proposito della Cancellieri. Eravamo proprio no, nel momento del governo dove c'era la Cancellieri, che era il governo Letta. Sì, il governo Letta. Disse: si dimetta perché ha sbagliato. Però perché secondo la Boschi la Cancellieri doveva dimettersi? Noi continuiamo a credere che il ministro Cancellieri abbia sbagliato, su questo non c'è dubbio. E secondo me il ministro Cancellieri avrebbe dovuto dimettersi. Anzi, continuo a sperare che lo faccia. Non spetta a me dire si deve dimettere. Io posso dire che al suo posto l'avrei fatto, mi sarei dimessa, perché sinceramente c'è un punto grave in tutta questa vicenda. Il punto grave è che ancora una volta si è dato l'immagine di un paese in cui la legge non è uguale per tutti, ma ci sono delle corsie preferenziali per gli amici degli amici. Allora io credo davvero che un ministro non debba seguire le vicende di una singola persona o di 100 persone, come ha detto il ministro, ma di tutti. Quindi non deve stare a fare telefonate personali, ma delle leggi giuste che valgano per tutti i cittadini. Allora ragazzi, ci sono due conflitti di interesse, mi sembra molto molto gravi, che vengono alla luce in queste ore. Il primo è stato rivelato dal Fatto ed è che il procuratore del caso Etruria, cioè il PM che si occupa delle indagini, ha un incarico che finirà a dicembre, certo un incarico remunerato non tantissimo, diciamo 5.000 euro lordi, una consulenza agli affari giuridici della Presidenza del Consiglio, cioè a Palazzo Chigi. Mettiamo insieme queste cose, voi che ascoltate. Il procuratore del caso Etruria è consulente di Palazzo Chigi, cioè del governo governo. Ragazzi, però questa cosa qui bisogna che vada chiarita, cioè perché è stato preso, quando è stato preso, si sa tutto, È una cosa un po' strana, diciamo la verità. Il procuratore capo di Arezzo è consulente a Palazzo Chigi. Consulente a Palazzo Chigi. L'altro qual è, Parenzo? Dillo tu. No, conflitto di interessi mega galattico è questo qua. No, ma l'altro qual è l'altro? Citato tu. L'altro, no, questo è il punto ricordi, più importante. Manco te lo ricordi, l'altro. No, questo qua è il punto vero. L'altro del padre di Renzi e del padre di Renzi coinvolto con alcune società che avrebbero avuto prese dalla banca. Vabbè, ma quell'altra roba è già più complicata anche da spiegare, le diverse società legate tra loro. Questo è il fatto più grave, cioè che un PM che sta conducendo un'inchiesta è consulente del governo. Questo è sicuramente. Ma un PM poi in carica, no? Ma sì. Può essere. Ma è normale. A quello che mi domandavo anche, un PM in carica non deve essere consulente di un roba, cazzo. Sì, il padre di Renzi, le società, i grandi magazzini, vabbè, quella è tutta un'altra robetta, vabbè, d'accordo, però questa è quella più eclatante, secondo me. Secondo Sgarbi, Saviano e i 5 Stelle chiedono le dimissioni per motivi razzistici. Sgarbi. Quelli che chiedono le dimissioni del governo o in particolare della Boschi sono Saviano e il gruppo di 5 Stelle, i quali hanno una visione giustizialista che è legata a delle colpe genetiche, il sangue si rende colpevole, qualcosa di vagamente razzistico. Beh, adesso non c'è solo la cosa razzistica, si parla anche di fatti, cioè il padre aveva un ruolo nella Banca Etruria, no, che certo. Poi è stata gestita dal governo, è stata, no, con tutto quello che sappiamo. Che poi dice Sgarbi che vuole sposare la Boschi per la sua indennità. Mi hanno stabilito che io non posso andare in pensione. Quindi mi trovo nella condizione che non pago, non ho la pensione perché sono in aspettativa senza assegno. Sei un poveraccio. Non posso andarci perché non me la danno. C'è il vitalizio, però lo dai finito. E allora io voglio sposare la Boschi per avere la sua indennità. Allora, Renzi si è molto incazzato oggi alla Camera per le parole di Brunetta, cioè sì, dimissioni. Uno scontro, no, perché Brunetta ha parlato di marchette. le marchette fallo sentire, di fallo Brunetta subito, le marchette, marchette di Brunetta. La verità fa male, lo so. E nonostante questo, rida pure, signor Presidente del Consiglio, rida pure, l'ultima volta. E nonostante questo, lei ha fatto una legge di stabilità fatta di marchette, totalmente in deficit. Onorevole Brunetta, il fatto che lei urli in quest'aula non può far altro che rendere disgustoso agli occhi degli studenti il suo atteggiamento, ma non bloccherà il mio intervento. Lei forse non ha bisogno di avere un aiuto da parte dello Stato, la povera gente sì, e noi tra Brunetta e la povera gente staremo sempre dalla parte della povera gente. Allora, però Crozza ieri marchette, regalie, piccoli favori, boschi. Sì, comunque guarda, Brunetta con tutte le leggi, con tutte le leggi mancia che hanno fatto nel passato, sì, tutti i governi, compresi i governi di centrodestra, tutti, che Brunetta parli di marchette, dai, quando si parla di una legge di stabilità, la legge finanziaria, diciamo, del governo Renzi, che pure ne avrà sicuramente, è una cosa incredibile. Cioè, ci sono delle persone che non riconoscono che cosa è successo nel passato. Cioè, nel passato, poi il governo Renzi ha le peggiori colpe, per carità, non voglio dire niente, non è questo, cioè, ne sono successe di tutti i colori, di tutti i colori. Allora, Crozza su un dirigente di Banca Italia, importante dirigente di Banca Italia, se non sbaglio si chiama Rossi, credo sia vice, non mi ricordo bene esattamente, vicepresidente, che è Rossi, il quale ha detto l'altro giorno dell'Annunziata che insomma da adesso in poi non si potranno più prendere allo sportello, diciamo così, le obbligazioni che poi sono state cancellate. Ma ha ragione Crozza, io per questo dico che Crozza è uno dei migliori politologi che c'è in giro d'Italia, perché in poche parole e con ironia dice delle grandi verità. Senti che cosa dice su questo signore che adesso scopre che ci sono queste obbligazioni che non vanno più vendute come erano vendute prima. Senti. Vicepresidente della Banca d'Italia Salvatore Rossi ha annunciato che forse adesso è necessario proibire la vendita allo sportello di titoli subordinati. Ma ora te ne accorgi? Ma se avevi il potere di vietarli, perché non l'hai fatto prima? Di che cazzo ti sei occupato fino adesso in Banca d'Italia? Delle agendine di fine anno? Ti occupavi di fare l'alberello nell'atrio, puttana? Che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. La Zanzara. Ormai è tutto degradato, tutto degradato ormai. Adesso è uscita anche la notizia che i funzionari di banca facevano il giro degli ospedali per truffare i malati. Entravi con un codice bianco ed uscivi con un conto in rosso. Ti vendevano le obbligazioni durante l'anestesia. Te ne immagini, degenti. Sono andato a farmi togliere i calcoli e alla fine ho calcolato che mi hanno tolto 20.000 euro e sto ancora male. Ma noi proseguiamo sulla saga del cassonetto, caro Parenzo, il cassonetto killer invocato da molti ascoltatori per mettere fine alla vita dei ladri che vanno a pescare il rame dentro i cassonetti. Finalmente abbiamo in mano il telefono di un personaggio che è il titolare dell'azienda a cui gli avvocati del ladro romeno hanno fatto causa, capito? Vogliono 300.000 euro. Cioè, la famiglia del ladro romeno che è andato a prendere, che voleva prendere il rame dentro cassonetto, vuole 300.000 euro da un'azienda, dall'azienda dei cassonetti, perché dice che il cassonetto era difettoso. Comunque, diciamo che frugare nei cassonetti non è un reato. Ancora, insisti. Vabbè, beh, costui sì. Si chiama Roberto Ardenghi. Uno che fruga nei cassonetti. Lascia stare il caso di questo qua. Uno che fruga nei cassonetti. No, ma se, ruba ti, qualcosa, se ti infili in un cassonetto, ruba che non ciò è... che butti, no? Ma non ruba è così il rame, non è che lo butti. Smettila. Mamma mia, Roberto Ardenghi. Tutti volete arrestare, tutti proprio. Ardenghi? Sì? Buonasera, sono Cruciani, Radio 24. Buonasera. Come sta? Io sto bene, come vuoi che stia. Senta, ma mi spieghi un po' questa cosa assurda, cioè veramente questi qua vogliono i soldi per uno che è morto dentro il cassonetto? Sì, ma io non darei tanto la colpa a loro che la chiedono, la colpa alla nostra giustizia, che anziché no, in questi casi qui non si capisce mai bene a chi può dar ragione, per cui uno rimane in bilico fin tanto che non c'è una sentenza, no? Ma scusi un attimo, qualcuno quindi vuole fanno fare... bene questi a chiedere soldi sostanzialmente, fanno no, bene. Ma che fanno bene? Beh, lui dice di sì, non è colpa, non è loro. Ardenghi, dice. Fanno bene o fanno male? Mi pare di sì. No, fanno male, cioè no, no, no, è scorretto. La cosa è scorretta, però gli dà spazio alla giustizia nostra, questo è il problema. Le racconto bene la cosa come sta. Perché sì, sì, racconti, detto. Racconti. Ci sono questi container che vengono, lei li trova presso le piazzole ecologiche, non lungo sì. le strade, perché lungo le strade trova il cassonetto piccolo, no? Sì. Nel mio caso c'erano apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso. Dunque questi che andavano a rubare? A rubare il rame, l'alluminio, che i metalli che hanno un certo valore. No, le dico questo perché l'avvocato al telefono, l'avvocato del signore che ha chiesto il risarcimento, eccetera, dice che. Ma chi l'ha detto che è un ladro questo qua? Non si può nemmeno definire ladro. Vabbè, certo, loro non possono che dire così, però uno che va a scassinare una cassaforte, secondo lei che cos'è? Sì, un ladro, io lo definisco ladro. Sì. Uno che si... Allora basta. E come è morto questo? È morto quando a un certo punto questo coperchio che loro hanno alzato è precipitato e probabilmente l'hanno puntellato, chi lo sa come. E che è successo? È rimasto decapitato? Che ha fatto? È rimasto più o meno decapitato, qualcosa del genere. Scusi un attimo, ma allora questi qua adesso qualcuno è disposto a fare una transazione? Lei darebbe un euro a questi qua? Ma io assolutamente, non sono io a rispondere, io ho fatto una questione di principio. Sì. Ma la mia assicurazione dice, ma qui... Non sappiamo il giudice dall'altra parte, non lasci perdere la mia responsabilità. Sì. Meglio pagare. Meglio, probabilmente se troviamo un modo, perché questi pare abbiano chiesto 200-300 mila euro, come hanno detto. Cioè, invece no, l'assicurazione quanto vorrebbe dare? 30 mila, che ne so. Questo non lo so, probabilmente vuole andare in trattativa, dice, perché se trova un giudice che la vede in un certo modo, che riesce a inventare qualche cosa di, magari ci penalizza. Sì, certo. È un rischio. Cioè, e se l'assicurazione arriva a un accordo, lei che fa? Io ho detto l'assicurazione, signori, se voi pagate in caso del genere, io disdico l'assicurazione da voi. Ma lei se trova di fronte un ladro che entra dentro il suo, diciamo, magazzino, dentro casa sua, spara o no? Dalle palle in giù, sì, dalle gambe in giù, insomma. Spara, non ha la pistola lei però? No, io non ce l'ho. Sparerei dalle gambe in giù, cioè nelle gambe, insomma, no? Perché ritengo giusto fermarlo per darlo in mano alla giustizia, insomma, non per ammazzarlo. Grazie Ardenghi, grazie, arrivederci. Grazie. Cioè, è la voce di uno che non ci può credere, cioè non può credere al fatto che l'Italia, la giustizia italiana, consenta a un signore, per carità, fa l'avvocato, alla famiglia di un romeno, di un ladro, di fare ricorso e un po' anche ricattare quell'azienda, dicendo guarda, mettiamoci d'accordo, tanto i tempi della giustizia. Ricattare. Sì, perché magari la giustizia, ricattare, un giudice lo si trova tu. Sempre, no? È così, ricattare, dai. Ricattare è una considerazione che e fai tu, per ti ricattano carità. Perché siccome i tempi della giustizia sono lunghi e non puoi sapere se trovi un giudice che magari impazzisce e dice beh sì, però quel cassonetto, senza il cassonetto difettoso, trova una vite che non è stata aggiustata bene, dunque era un po' difettoso, gli è cascato in testa, poveraccio, è morto, capito? Cioè puoi trovare un giudice così. Paolo Firenze, vai Paolo. Paolo, amici miei, dimmi Paolo, che c'è, che è successo? Ottima trasmissione, sempre la migliore. Vai Paolo, su, dai, forza. Quando vedo te, quando sento te i vegani, penso a Marquez e a Valentino Rossi. Cioè? E non so se sei Marquez o Rossi, ma su queste continue provocazioni. No, la provocazione è quella, per esempio, di chi ha messo la testa del coniglio sul banchetto della Lega Antivivisezione in giro. Quella, francamente, mi sembra una provocazione, per carità, intelligente, peccato che non ci ho pensato. Cioè, nel senso, hanno fatto trovare la testa di un coniglio, non la testa viva, cioè impacchettata come la vendono in un negozio, cioè come la vendono in una macelleria, come la vendono in un supermercato, sul banchetto, credo, sul banchetto della Lab. Beh, per dire, guardate, che non ci rompete i coglioni, vogliamo continuare a mangiare il coniglio. Okay, questo è il senso. Quella è una grande provocazione. Sì, ma è inutile in questo, totalmente inutile. Ah, no, è inutile. Perché quelli addirittura fare? Vogliono fare un'indagine per scoprire chi è stato. luce, un'indagine dei RIS per scoprire qual è il reato. Lasciare, lasciare un pacco con una testa di un coniglio è un reato sul banchi della LAV? È una provocazione. Può essere anche un appunto. Se te lo lasciano davanti a casa non è un bel segnale. Che c'entra? Fidati di me. Se ti lasciano davanti a casa una testa mozzata, in generale non è un bel segnale. Va bene, Vincenzo Roma, vai. Vincenzo. Dimmi. Luciani, io volevo intervenire sulla faccenda delle banche di ieri. Sì. E sono contrario, sarò molto impopolare, sia all'intervento dello Stato per salvare le banche, sia per salvare i risparmiatori. Sì. I problemi dell'Italia oggi sono proprio che lo Stato interviene nell'economia, e questo si chiama socialismo. La faccenda vera è che se un'azienda è gestita male, un'azienda privata fosse gestita male, i titolari sanno benissimo che fallisce. Diciamo, la banca è un po' diverso perché naturalmente nella banca ci sono gli risparmi, eccetera, eccetera. Però quello che è. Però di fondo hai ragione, io ti do ragione su questo. No, ma e la stessa cosa vale per i risparmiatori che vanno. Non sono analfabeti, non credo che sul contratto abbiano messo la croce. Ora, però abbiamo detto, andavano lì, si fidavano di quelle persone lì, rincorrevano i clienti anche dentro gli ospedali per vendergli della monnezza. Questo è il punto fondamentale. C'è una questione di fondo, che le tasse sono il risultato della fatica del lavoro delle persone. No, ma non bisogna usare i soldi nostri per salvare salvare. Il problema è proprio questo. I mali dell'Italia sono che abbiamo una cultura socialista che stenta. Vabbè, a finire. Vincenzo, ho capito, grazie. Marco da Bergamo, dai. Marco, vai, dimmi. Ciao Cruciani. Vai. Ascolta, volevo intervenire riguardo a un commento che avevi fatto la settimana scorsa riguardo a una ragazza che, non so, aveva liberato una mosca o qualcosa del genere. Ah, sì, che dava da mangiare ad una piccola mosca, ad un piccolo insetto per terra, perché altrimenti non riusciva a volare questo piccolissimo insetto. Capito? Ah, ok. Sì. No, vabbè, io la trovo un'azione bella, diciamo. Bah, bellissima, guarda, stupenda. Ma ognuno fa quello che vuole. Io posso pensare che sia una follia o no? Sono padrone di pensare che sia una psicosi? Se tu vuoi salvare una formica, vuoi salvare una piccola mosca che non riesce a volare? Cioè, sono padrone di pensare che sei un po' picchiatello in testa? Lo posso pensare oppure no? No, secondo me, posso dirti una cosa? Sai cosa? Tu non sai forse che una mosca, caro mio, sbatte le ali tipo 200 volte in un secondo, e, allora? E solo per quello tu dovresti baciargli il culo, capito? A questa mosca dovresti portargli rispetto. E perché? Solo per quanto cavolo è costruita bene, ok? Non in modo differente dal tuo corpo. Ma che, capito? Sia costruita bene, lei da che ora inizia? Perciò io penso che se tutte le persone, come sbatte le ali la mosca? Ma no, è cosa costruita bene, perché sia costruita. Ma sia lei da che ora inizia? Ma è costruita bene? Ma che chiama la radio? A che ora inizia a bere? Domanda Parenzo. A che ora inizia a bere lei? No, io non bevo, caro mio. Ma no, okay. Ma si direbbe il contrario. No, baciare Parenzo, il culo alla zanzara, alla mosca, per come sbatte le ali. E lei chiama la radio della Confindustria per parlarci di come sbatte le ali la mosca. Fermo. Marco, la mosca è fatta benissimo, però se muore non me ne frega un cazzo. A dopo. In questi giorni di festa, regalatevi tutta l'informazione, l'intrattenimento e la passione di Radio 24. Buon ascolto e buon Natale. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. La Zanzara. Il cassonetto differenziato per il frutto del peccato. Cassonetto differenziato per il frutto del peccato. Cassonetto differenziato per il frutto del peccato. Cassonetto differenziato per il frutto del peccato. Cassonetto differenziato per il frutto del peccato. Cassonetto differenziato. Cassonetto differenziato. Finalmente il cazzonetto che uccide i ladri. Che bello! Si impressiona meno. Lo spazzino è più faceto perché sa che trova il vento. Il cazzonetto. I frutti veri e propri. propri si trovano. Eccoci qui, la Zanzara 800240024 col cassonetto di Elio e le storie tese, caro Parenzo. Torniamo sempre sul cassonetto, sempre che è una storia, come dire, che è la fotografia di un sacco di cose che riguardano l'Italia, una marea di cose che riguardano Dici? L'Italia. Sì, assolutamente, assolutamente. Vabbè. Assolutamente. Nel cassonetto. No, ma c'è un altro conflitto di interessi che riguarda, non è solo il procuratore capo di Arezzo, che incredibilmente c'è la procura che indaga sul presunto conflitto di interessi degli ex vertici di Banca Etruria, che è anche un consulente del governo Renzi. Non c'è solo questo di clamoroso conflitto di interessi, ce n'è un altro. C'è uno dei più grandi difensori della Banca Etruria, cioè difensori nel senso di avvocati della Banca Etruria, è lo studio di Giuseppe Fanfani. Sì, il nome non vi è nuovo a molti che non sono giovani, ma insomma Fanfani è stato un grande della Prima Repubblica, un grande politico, dico, democristiano della Prima Repubblica, eletto al CSM su indicazione di Renzi. Eletto al CSM su indicazione di Renzi, il suo studio di avvocati, dove c'è CSM, il figlio, sarebbe il Consiglio Superiore della Magistratura, cioè l'organo di autogoverno. Esatto. Non solo è stato Giuseppe Fanfani, grande avvocato, il difensore politico della banca, ma anche il difensore legale, cioè un renziano di ferro nominato da Renzi al CSM, e anche il difensore della Banca Etruria. Cioè, tu dimmi se non c'è conflitto di interessi. Ma assolutamente, c'è, cioè, questo certo. Dai. Mi trova e non capisce il perché di tanta inciviltà. Poi scende in piazza e sciopera. E la colpa è anche un po' tua. Se non ti batti per un mondo. Oh, ieri sera, quando è finita la Zanzara, è morto anche Licio Gelli. Due ore dopo. Noi abbiamo finito alle 21, Licio. È morto alle 23. Come ricordare il tuo amico Licio? Non so come ricordare, signor Gelli, che molte delle persone che stanno ascoltando non si ricordano nemmeno, come? Molti giovani non sanno manco chi è il signor Licio Gelli. Ma scherzi. Le trame oscure di questo paese. Mi rimane impressa una frase che disse il signor Gelli. Io sono nato sotto il fascismo, ho studiato col fascismo, ho combattuto per il fascismo, sono un fascista e morirò fascista. Beh, mi sembra molto chiaro, no? Sì, tra l'altro, signor Gelli è stato. Signor Gelli è stato. No, a me non me ne frega niente. No, se gli piace a lui. Sì, ormai, sì, signor Gelli è stato fascista, repubblichino, partigiano a un certo punto, massone, successivamente tante, sì, altre cose. Beh, soprattutto anche questo mi sembra un italiano perfetto, un arci italiano da questo gran punto di vista. Gran maestro anche stato. Vabbè, certo, alloggia P2, evidente, no? Senti cosa disse in un'intervista fatta a Raffaella Calanda di Radio 24, se che non risentiremo sbaglio. Sabato, peraltro, in versione integrale. Esatto, bravo. C'era Calandra. Cosa disse? Che andò lì a Villa Vanda, sì, c'era Calandra. Senti cosa disse di Costanzo, ottimo, del signor Costanzo. Sì, anche lui è iscritto alle P2, si sedeva qui, come sai, no? Si sedeva qui, si sedeva, senti, qui. Senti cosa disse. Le dico Giuliano Ferrara. Come persona è molto pesante, vedo. Se invece diciamo Maurizio Costanzo? D'altra parte no, perché fra l'altro ha riconosciuto se stesso di essere un cretino. Ha giustificato l'iscrizione alla loggia perché era un cretino. Costanzo un cretino. Beh, adesso è Gelli, Beh, Gelli, ho capito, Gelli. Signore, che può dire qualunque, potrà dire qualunque, esatto, cosa. Registriamo che ha detto questa roba. Ma qua. Ma sì, però poteva dire anche che Cruciani, Simone Cruciani veniva qui ogni giorno, Cruciani. Villa Vanda. A proposito dire, di Villa Vanda, vogliamo fare le condoglianze? Ma ti ricordi quando telefonava, chiamavamo? Sì, ecco, però mi ricordo. Lo ragazzi, puoi rimettere un attimo? Aspetta, che... no, ma io facciamo le condoglianze. Facciamo le condoglianze. Facciamo le condoglianze. Io faccio condoglianze a nessuno. No, facciamo le condoglianze. Io non le faccio. Dai, facciamo le condoglianze. Dai. Va bene, chiama. Ti prego. Ma voglio fare le condoglianze, sul serio. No, giusto, questo certo. Tu eri iscritto anche tu alla... No, no, ma iscritto, no, era finita la P2, cioè quando io potevo iscrivermi. Poco male, cioè, possiamo anche dirlo. Ma perché non risponde più nessuno a Villa Vanda? Sì, era un simpatico signore che rispondeva sempre. Ma ci mancherà un po', signor Gelli? No, no, dici no. Per niente, però. Signor Licio, no, ma Gelli, tu com'è che sei finito in quella lista? Ma non ero, ma non sono mai stato iscritto in nessuna lista. Ma sei sicuro? Ma sei impazzito, assolutamente. Ma lei ha detto di sì, però, a me non mi potrei trovare in nessuna lista, perché io odio le iscrizioni a qualsiasi roba, cioè odio le iscrizioni a tutto, anche quando devo mettere una firma, dico di che stiamo parlando. Ma perché lui una volta disse abbiamo anche tra i nostri? Ma non è vero, non sono mai stato. Ma perché non rispondo a Villa Vanda che dobbiamo fare le condoglianze? Ma quello è morto, avranno da fare, no? Ho capito, cazzo, ma voglio fare le condoglianze. Non me ne frega niente a me. genere. Ma non c'era la solita cosa, non c'era la cosa, come si chiama? La, la badante là che rispondeva sempre. E rispondevano sempre, perché non rispondono più? Ci sarà qualcuno? Ha staccato anche la linea, tutto staccato. Hanno staccato tutto? Tutto hanno staccato. Vabbè, incredibile. Però io mi sono messo di punta, adesso prima della fine della trasmissione voglio fare le condoglianze alla famiglia Gelli, assolutamente. Ha detto che magari ma si giusto. Dice pronto sono Cruciani, magari chi risponde dice ah fratello Cruciani. Ma il fratello un cazzo, ma che fratello, ma sei scemo sei. Ma quale fratello? Ma se dicono fratello Cruciani, guarda, grazie. Guarda, ma mi puoi attaccare, avevi tu mi puoi attaccare no, su so, tutto. Ma tu adesso ne hai 49, no? Sì, sì, all'epoca della P2 quando fu scoperta nell'81 tu ne avevi? Avevo, boh, fai il calcolo, 25. Infatti eri uno dei più giovani iscritti, mi hanno detto. Ma che cazzo dici? Dai, non diffondere queste notizie. Sto scherzando. Ma no, che stai scherzando? Non stai scherzando per niente, dai. Ma sì che sto scherzando, ti pare. Alessandro, Roma, vai. Poi Simone, provincia di Modena. Prima c'era Alessandro, vai. Figurati se prendiamo. Non c'è Simone, tempo. Allora, dai, Simone. Sì, ciao ragazzi. A dimmi. Parte che con Gelli avete fatto uno scatto in avanti, non indifferente. Volevo solo fare una puntualizzazione a Parenzo, del quale ho media stima e media, lo dico in positivo. Diciamo sì, che per me Parenzo è un bicchiere mezzo pieno, però riguardo al fatto che lui per me è un bicchiere di olio, quindi vabbè Simone vai, forza. Ti ostini a difendere il rom che non rovistava difende nel... niente. No, mi spiego. No, dici che non è reato rovistare nel ma cassone. Sì, ma non è così. Allora, mi sembra una polemica. Ma c'è il rame dentro lì, il rame. Che sai vero come chiamano rame? No, l'oro, come l'oro rosso, sì, l'oro rosso. Quindi sì. Palesemente era lì per rubare. Quindi non so di cosa stiamo parlando. La domanda è, allora, qua, se capita che beccano i rom, chi per loro, gli zingari, che rubano, come è già successo, dai tralicci che portano la corrente per le ferrovie, se li trovano sul palo, li possono arrestare, li possono certo. inquisire o anche lì troviamo il vizio di forma. No, no, devono inquisirli, certo, devono arrestarli se uno ruba il rame nei treni. Allora certo. semplicemente non puoi continuare a dire non è reato rovistare nel cassonetto. È reato anche rovistare volendo, anche appunto, rovistare nel cassonetto di un privato. È reato pure anche nel cassonetto se pubblico. Se uno raccoglie gli avanzi sì. di cibo nei teoricamente cassonetti, teoricamente è reato. Però, teoricamente è reato anche quello. Se è così, non lo so, se è così è una follia però. Ma non lo so, vabbè, comunque se uno Simone, mangia dai cassonetti un reato. Giustamente ha informato Parenzo che il rame non è una roba proprio da buttare via, come sai. Giorgio da Milano, Giorgio Milano, vai Giorgio. Sì, ciao, eccomi. Ma un po' fregato l'ultimo che ha chiamato perché fondamentalmente volevo dire quello. Perché cioè non sono rifiuti. Deve ma certo che non sono rifiuti, non sono dai. Rifiuti. Parenzo che insiste su questa cosa. Pensa che non si possa morire che, nella lotta tra cassonetto e rom. È meglio sì, che okay. sopravviva il rom e il cassonetto no, si rompa. Ma non è perché il rom, la persona il ladro. Cosa, il ladro. No, okay, no, io in generale penso che è meglio che sopravviva la persona alla cosa. Ma, capito, ma questo non ma riguarda. Capito, può bene, riguardare Giorgio da Milano, Federico da Bubù, Luca da Forlì, Giuseppe. Da Roma, hai capito? Sì, ma senti, quando sto parlando del fatto che è morto o non è morto, che meritava di morire, non dico che meritasse di morire, ma il punto è che è assurdo che si tiri fuori una storia giudiziaria dell'indagine, ma sì, perché uno essere, è morto d'accordo. Quando è andato a rubare, indipendentemente no, da ma chiedono 300.000 euro. Hanno chiesto all'assicurazione un ladro chiede 300.000 euro a un'azienda che si deve difendere, spendere soldi, burocrazia, avvocati, cazzi, mazzi, eccetera, eccetera, perché c'è un signore che vuole dei denari quando è andato a rubare esatto. ci è rimasto secco ma, c'è rimasto secco mondo... pazienza chi se ne frega esatto dai. Ma in un mondo ideale guarda non ho la minima pietà può anche chiedere 300.000 euro ma in un mondo ideale uno stato sensato dovrebbe dirgli chiedimi quello che cazzo vuoi vaffanculo ciao fine della questione sì sì sì comunque avevo 15 anni all'epoca amico mio cioè, infatti eri uno dei più giovani eri l'unico minore no perché abbiamo detto 25 ma siamo impazziti siamo giustamente la gente scrive dicendo che siete matti come vi fate i conti nel 1980 49 adesso avevo 15 anni ma tu adesso ne hai 49 sì sì 49 15 quindi anni. Ne compirai 50 ma perché mi rompi i coglioni su questa cosa non ho 50 capito 50 anni vabbè Paolo provincia di Cosenza ma ancora mancano dei mesi a voglia te Paolo provincia di Cosenza ciao, dai. Sei già nel 50 sì ma sono già in lutto da tempo Paolo dimmi senti no volevo solo dire che i vegani sono una moda un'utopia un luogo comune qualcosa che non esiste praticamente beh, non esiste no perché rompono i coglioni ma io ho visto su Facebook una foto di Red Gantian il bassista dei Pooh sì. che ha passato il suo compleanno con una torta di bacche una cosa che non si poteva guardare perché non gli chiedete, dato che è intervenuto, dato che tanti anni ha invitato al suo concerto? Sì, sì, ma ci sentono spesso gli amici dei Pooh, io l'ho incontrato anche qua, Red Kansian, eccetera. Ma ognuno fa quello che vuole, ma sono sicuro che Red non è uno di quelli che pensa che io sia un assassino perché mangio la carne o mangio il pesce. Se lo pensa, peggio per lui, ma non credo che lo pensi. Ma tu lo sai qual è il lobby di Red Kansian? Qual è il lobby di Red Kansian? Qual è il lobby di Red Kansian? Pesca subacquea. Ma non lo so, se ammazza i pesci, se ammazza i pesci e sostiene di essere vegano, è in una contraddizione gigantesca, ma non credo sia così. Che ne sai allora tu? L'hai visto pescare? L'hai visto pescare con i pesci in mano? Io ho letto i libri loro perché sono un fan dei Ma magari sarà diventato vegano dopo. Questo è un altro discorso. No, ma è il discorso che c'entra. Uno prima ammazzava i pesci e gli animali, e dopo si è convinto che non bisogna ammazzare né pesci né animali, non bisogna mangiarli. È possibile pure questo. Cioè, ma ognuno nella vita fa quello che vuole. Basta che non mi rompano i coglioni a me e non mi definiscono assassino e avvelenatore del pianeta. Capito? Questo è il punto fondamentale che non vogliono capire. Io sono per la libertà, loro per una società totalitaria, il totalitarismo vegano. Me ne viene pure una al giorno sui vegani, se volete. Alex Roma. Vai, Alex, Alex Roma non c'è, Franco Torino, dai. Che testo di ciò. Pronto? Franco, dimmi. Sì, sì, sì, sì. Allora, innanzitutto lì il tuo amico, come si chiama, Parenzo, è un cane da marchetta, sai, sono i cani da punta e poi... Oh, sul cane da marchetta, torniamo tra un attimo, abbiamo una piccola interruzione. Parenzo uguale cane da marchetta, secondo Frank. Franco da Torino, ciao. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di Servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Con Gianmarco Tognazzi. Sentite. Ma che succede? C'è un cadavere, ecco che c'è. Ma quale cadavere? Su, è un normalissimo coniglio che sta per essere cucinato, tutto qui. Ma perché? Perché se le conosci benissimo le regole di questa casa? Rita, per favore, non te ne uscire proprio stasera con le tue stronzate vegetariane, eh? Il coniglio al forno è il piatto preferito di Rolando e noi stasera ci mangiamo quello. Se tu non vuoi c'è la cosa, la cacio e pepe, oppure ti mangi le patate, che quelle t'assicuro che non sono state torturate, d'accordo? Dialoghi che possono accadere in qualsiasi caso. Per carità, non fate l'errore gravissimo. Voi che siete persone regolari, normali, e mangiate un po' di carne ogni tanto, mica sempre naturalmente, ma anche se la mangiate sempre, non fate l'errore gravissimo di mettervi con una vegana. Amici miei, tenete lontana questa possibilità, oppure costringetela a cambiare. Perché non fate questi? Avevo ordinato quelli vegetariani, perché? Erano finiti. Ah, erano finiti? Sì, erano finiti. Beh, strano, perché ho detto al negoziante di mettermeli da parte. Di la verità, tu non l'hai comprati per il prezzo, eh? Vuoi la verità? Sì. Sì, non l'ho presi per il prezzo, sai perché? Perché trovo immorale, trovo assurdo spendere 70 euro per dei cazzo di croccantini vegetariani! Oh, ma settimana scorsa, 300 euro di veterinario, ma quel cane costa più di un cavallo da corsa! Ma lo sai quanti animali vengono macellati per fare quei croccantini, lo ma sai? Ma che cazzo me ne frega, Rita! Ma Cico è un cane, e i cani da che mondo è mondo sono carnivori! Ma tu non puoi imporre mica le tue scelte vegetariane pure al cane, e che cazzo! Beh, Gianmarco Tognazzi è numero uno assoluto, una specie di Gianmarco Tognazzi alias in questo caso Giuseppe Cruciani, diciamo la verità. Ma scusa, ma dai, facile, ma è una roba da ricchi, ma come si fa? Ma hanno inventato pure i croccantini vegani, ma andate a fare in culo con i croccantini vegani, lo sapevo, per carità, non è che lo scopro adesso, i croccantini vegani per i cani. Ma dove finiremo? Cioè, dove finiremo, Parenzo? Dove finiremo? No, cioè, ma tu sei poco tollerante. No, però, ma dove finiremo con i croccantini vegani, ma amico mio? Se uno mio vuole comprare, è un genio chi li ha inventati, però. Sì, dal punto di vista commerciale, sicuro, economico, è un genio chi li ha... Mi dispiace non averli inventati io, i croccantini vegani. Sì, ma è un genio chi li ha inventati. E posso dire sommessamente, se costano come credo il doppio, il triplo, un pollo chi li compra? Un pollo senza offendere i polli? Senza offendere i polli? I croccantini vegani per i cani. Adesso io posso capire che uno mangia vegano, ma dare del cibo vegano agli animali no, non ce la faccio. Non ci riesco. Non ce la faccio proprio fisicamente. È vero che c'è una coerenza in questo, no? Se uno è vegano, beh, certo, punto. E poi vegano integralista non può permettere che il proprio cane si cibi di qualcosa che secondo lui contribuisce alla distruzione del pianeta, eccetera eccetera. Questo non c'è dubbio. Però dove andremo a finire di questo passo? Dove andremo a finire? Io vedo, giro per strada, giro per Milano e vedo che tutte scritte veg dappertutto, veg qui, veg lì. Ma sei perseguitato? Sì, vedo scritte veg sei dappertutto. Perseguitato, tra poco ci sarà la sigaretta vegana, ma il sigaro vegano, il... Ma ci sicuro, vedo scritte veg dappertutto, pet veg, cibo veg. Un'invasione! Un'invasione! E poi Cruciani, mangiare lattuga fa fare delle scorregge terribili, pensa all'ambiente. Federico da Pistoia, vai! Parenzo, sì, volevo parlare con Parenzo, volevo dire a Parenzo, volevo capire. Oh, tra l'altro, altro, aspetta, Federico, il film che abbiamo citato prima, Il Ministro, da cui sono tratte quelle meravigliose. Meravigliose frasi di Gianmarco Tognazzi che si contrappone alla sua fidanzata, compagna, non lo so, uscirà forse ad aprile una come commedia. Forse? Sì, no, perché hanno finito di girarlo qualche mese fa. Ah. L'amico Gianmarco mi ha fatto gentile omaggio di queste cose, naturalmente. D'anteprima assoluta. Assoluta. Federico Pisto, non pigliare per il culo il signor Tognazzi. No, anzi, a Tognazzi l'ha amato, ma scherziamo. No, allora, Federico, io volevo capire, il signor Parenzo, sì. che idea di democrazia ha? Cioè? Perché, allora, fino a ieri ha preso per il culo la Le Pen, ok? Sì. Che gli hanno fatto una guerra spietata per metterla in difficoltà e non per non farla vincere. Cioè, sono alleati destra e sinistra per non far vincere la Le Pen. Quello però è normale, fa parte della storia francese, lo fa da sempre. Quello fa parte della democrazia, perché le ammucchiate di cui parla Salvini esistono anche in Italia, Cioè, le ammucchiate le hanno fatte tutti. In questo caso hanno fatto l'ammucchiata per il pericolo Le Pen. Ma è legittimo. No, la mucchiata all'interno di una coalizione che può essere centrodestra, centrosinistra, quello che vuoi, va bene. Ma quando si fondono la destra e la sinistra per mettere in difficoltà non una persona, non si fonde nessuno lì, non si è fuso qui, non mi pare che la democrazia in Francia sia in pericolo, poi scusate, ma non mi pare che in Francia la democrazia sia in pericolo. Chi se ne frega? Ma poi chi se ne frega? Dai, sono elezioni regionali, le regioni in Francia non contano un cazzo. Sì, ma scusate, lasciatemi fare un discorso, però, perché fa tanto il democratico, no? Lui sta dalla parte di un partito che è cioè, dovrebbe essere proprio l'emblema della democrazia, no? Ma che quale mi pare partito? Che non sia, perché mi sembra che il signor Parenzo sia abbastanza del PD. Okay. Vabbè, allora lo dice lei, possono farsi simpatia alcune cose del PD. È un ipocrita quel signor lì, perché vi fa tanto democratico quando anche in Italia la democrazia non esiste. Non esiste la democrazia, Federico da Pistoia. No, spiegamelo te. Non esiste la democrazia. Perché devo dire una cosa. Federico, la democrazia esiste, però l'ultimo presidente del Consiglio eletto diciamo in carica e poi successivamente entrato in carica, cioè noi abbiamo scelto l'ultima volta che gli italiani hanno scelto un presidente del Consiglio, io lo voglio sempre ricordare, a me non me ne frega niente di Berlusconi. Non è stato Berlusconi, amico mio, è così la realtà, certo. È questa, sì. L'ultima, la cosa sembra incredibile, la democrazia c'è in Italia, sembra incredibile, ma le ultime elezioni che hanno prodotto un presidente Presidente del Consiglio eletto direttamente dagli italiani, sono state nel 2008. Come sai, gli italiani non eleggono direttamente un Presidente del Consiglio, eleggono una coalizione che poi... Il professore di diritto costituzionale non so più di te. Il punto però è non c'è nessuna elezione diretta del Presidente del Consiglio, c'è un'indicazione. Oddio, nel 2008 sono state le ultime elezioni. Nel 2013 il signor Bersani, che era candidato, non è diventato Presidente del Consiglio. Come non è diventato Presidente del Consiglio Berlusconi, come non è diventato Presidente del Consiglio Ungrillino o comunque chi si presentava come Presidente del Consiglio. È diventato Presidente del Consiglio il signor Letta, che non si è mai presentato per fare il Presidente del Consiglio nel 2013. Questa è la realtà. Dunque noi un po' di democrazia ce l'hanno tolta. Adesso non si può votare in Italia, siamo nella condizione che sostanzialmente non si può votare. Non mi pare che c'è nessun partito però che si alza in piedi per dire andiamo al voto. No, ma al di là di questo, chi vuole andare al voto oggi? Male, bisogna votare. In Italia c'è un deficit di democrazia spaventosa. Governi non eletti dagli italiani, mi fanno schifo a me. Daniele, provincia di Frosinone. A me i governi non eletti mi fanno orrore. Che devo fare? Non mi pare che le opposizioni sono in piazza per chiedere il voto. Male, Daniele, provincia di Frosinone. Mica sono il portavoce dell'opposizione io. Daniele, provincia di Frosinone, dai. No, volevo solo dire che nel 2002 ho sottoscritto un mutuo Banca Marche, prima casa, no? Sì. 3 anni fa, per colpa della crisi, andai in crisi. Sì. Telefonammo alla Banca Marche per avere un rifinanziamento del mutuo, no? Lo sai che cosa mi fu detto? Che il 50% di tutta il finanziamento doveva essere... sottoscritto in obbligazione adesso. Sì, ma non sei l'unico, Daniele, non sei l'unico. Cioè, questa è la prova che questi già sapevano tutto, che stavano vendendo della spazzatura, capisci? Sì, ma non c'è dubbio. Il problema è che bisogna prendersela con queste persone qui, cioè, capito? Bisognerebbe fare qualcosa contro queste persone. Il problema è che pare che il governo abbia protetto, c'è questo scudo sugli ex amministratori o gli amministratori delle banche, capito? Vabbè, Daniele, Andrea, provincia di Ravenna, dai. Pronto? Dimmi. Pronto? Andrea, dimmi, dai. Buonasera, ciao. Ciao. Volevo parlare con il signor Parenzo. Cioè, volevo specificare la storia. Pronti? No, ma niente di. Pronti, io volevo specificare la storia del cassonetto. Sì, cassonetto. Quello che voi definite. Proporremo una commissione d'inchiesta adesso al governo sul cassonetto. Quello che voi definite cassonetto in realtà è un contenitore speciale per il recupero dei metalli. Benissimo. Che normalmente quando è all'interno delle ditte, e soprattutto sono delle ditte che lavorano dei metalli, che logicamente hanno dello sfrido, hanno dello scarto. Quindi quello scarto lì assolutamente non è spazzatura. E quindi non sono cassonetti, addirittura quei contenitori lì vengono forniti alle ditte da chi recupera il metallo, tant'è vero che arrivano con ma noi sappiamo tutto, non sono cassonetti normali, non è come andare per strada e trovare un cassonetto dell'immondizia, sono cassonetti fatti apposta per i rifiuti particolari, per il rame, quelle robe lì, non è per rifiuti particolari, ragazzi, ma perché non esiste il problema, è creato dalle leggi italiane, questo è il problema, dai. Non sono rifiuti, addirittura non è neanche della ditta spesso il contenitore, è fornito dalla ditta che li recupera, per cui molto probabilmente se lì è successo un qualcosa, bisogna vedere anche di chi è il cassonetto. Va bene. Va bene, ciao. Ci sentiamo, ciao. E sempre a proposito di banche, Belpietro versus Zanetti ieri sera. Il governo ha introdotto una norma che impedisce agli azionisti di rivalersi sui consiglieri di amministrazione che hanno fatto questa cosa. L'azione spetta al commissario, Banca d'Italia, e sarà Banca d'Italia forse si deciderà. Esattamente. Quindi, come è previsto in tutte le procedure fallimentari dal codice civile, articolo 2394. Tanto è vero che avete dovuto fare un decreto il 13 di novembre per salvare i banchieri. Ma per forza avete salvato i banchieri! Avete salvato il papà della Boschi. È un inizio pessimo. Calmiamoci. È un inizio pessimo. Che lei dica queste cose. Ma allora dovete intervenire su Banca Italia. Ma abbiamo detto che vogliamo fare una commissione d'inchiesta, se fatta una sola volta nella storia d'Italia, la vogliamo fare non solo su tutte quattro... alla maggioranza, no, e allora, come si assolverà. No, allora noi la abbiamo... alla Camera si assolve, noi... ma di che cavolo state parlando? Allora, riassolvete, ma che me ne importa di una commissione bicamerale dove vi dite quanto siamo stati bravi? Allora che cosa dobbiamo fare? No, spiegami. Aprite gli archivi e fate vedere che cosa avete combinato. Come lo facciamo se non facciamo una commissione d'inchiesta? Desegretate una voce da fuori. Ma siete fuori da qualcos'altro. Bianchetti. Ragazzi, la commissione d'inchiesta non si può sentire, eh. Questi insistono ancora a fare la commissione d'inchiesta. La commissione No, le commissioni d'inchiesta sono morte. Le commissioni d'inchiesta non si devono più fare. Sì, effettivamente non hanno grandissimo. Ma dai, non basta hanno con queste commissioni d'inchiesta. Ancora però... esiste quella su Aldo Moro, dai, l'abbiamo detto l'altra volta. Ma di che stiamo parlando? Dai, su. Allora, c'è ancora stallo tra i partiti. Per l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale, caro sì. Parenzo, non frega questa niente a nessuno. Assoluta. No, frega e come? No, alla gente non frega nulla. Democrazia blocca un Parlamento che non è in grado. Un Parlamento, ma no, alla gente interessa invece un Parlamento che non è in grado di nominare i giudici, uno dei massimi organi che deve giudicare la legittimità delle leggi. L'ha capito sì, chiunque, sì. Anche il tuo amico Savin da Bari. Giossetti, voglio dire, la Corte Costituzionale, quella che deve decidere sulle leggi, cazzo! Dov'è la Corte? Dov'è il Parlamento? Ti voglio bene, Giuseppe, te lo dico io, sono tutti stronzi, Giuseppe. Allora, tutti sti stronzi che siedono in Parlamento, che non stanno a nominare la Corte Costituzionale, Giuseppe, quella che dà il controllo di legittimità, Giuseppe. È difficile da spiegare, no? Io ho un nome, noi abbiamo un nome, caro Parenzo. Ma noi, un momento, sì, non, sì, ci siamo, sì, consultati. Sì, sì, sì. No, io non ci siamo consultati, però io ho un nome, Il nome è quello di Carlo Taormina. Caro Carlo, come stai? Buonasera, benissimo. Allora, ma qui innanzitutto questo. Pare che Renzi abbia dato una coltellata a Forza Italia perché vuole fare l'accordo con i Ghirilini, per fare i giudici della Corte Costituzionale, capito? Cioè, beh, questa è una cosa giusta. Se, o si propongono nomi adeguati o se no non... si va incontro a queste ma tu lo faresti sul serio? Tu sei una persona alla fine moderata, diciamo, grande conoscitore della materia. Moderata. Beh, sì, una persona moderata, dai, su, alla fine grande giurista, conoscitore del diritto, cioè lo faresti sul serio giudice della Corte Costituzionale? Beh, certo, che te frega. Beh, direi di sì, anche se mi comporterebbe un certo sacrificio dal punto di vista professionale e quant'altro, pure, sì. Però insomma, stando cioè si guadagna poco, si guadagna poco la consulta, dici? Beh, insomma, certamente non come quando si svolge attività professionale pacificamente. Beh, insomma, però, hanno un bel vitalizio, si dice, la consulta. Vabbè, a parte il vitalizio, insomma, a me mi interessa molto la funzione. I presupposti ci sono tutti, ma naturalmente manca il presupposto del servilismo a qualche parte politica, questo certamente. Parenzo, tu come lo vedresti, no, signor Taormina, la Corte Costituzionale? Però, sarebbe lì, stupendo. Uno lo vede come un organo, no, con un po' come tutto moderato, un po', no, patinato, non so come dire, no, un po' ovattato. Va cambiato. Con lui che dice questa legge l'immondizia, la rimandata, ma questa è una merda. Fare le battaglie. Io ecco, che addormentarsi per favorire il governo sulle sue operazioni discutibili sul piano economico, eccetera, come è accaduto per esempio. Cioè, non è una figura terza, professore, ecco, questo. Questo lo dici tu, Parenzo. No, è un'ottima figura, ma autorevole, certo, ma non, cioè, no, io le immagino che arriva una legge, ma chi è sta merda? Ma che roba è? Ma rimanda tutto. Dai, va bene, ma questo quando va detto fatta con i righiati, ma è necessario farlo. No, ma per carità, però purtroppo è arrivata sta legge, ma chi l'ha fatta sta porcheria? Purtroppo la Corte Costituzionale di oggi. La Corte Costituzionale di oggi è fatta di persone servili. Sono espressione delle volontà politiche, certo, e quindi questo è un problema. Senti, ma certo, per esempio, tasso di moderatismo di Taormina. Renzi, tu hai detto che è peggio di Fiorito. Com'è possibile che è peggio di Fiorito? Che è stato suo assistito, no, Fiorito. Le spese di Renzi per i vari ristoranti, alberghi e viaggi, eccetera, lo hanno portato a Palazzo Chigi e Fiorito invece è andato in galera. Cioè, mi pare che ci sia una bella differenza. Secondo te ha dilapidato più soldi pubblici Renzi di Fiorito? Beh, vabbè, non c'è ombra di dubbio che le posizioni che ha avuto Renzi come presidente della provincia, come sindaco di Firenze, costituire un'occasione ben più ghiotta di quello che è accaduto. No, ma diciamola tutta, adesso non ti devi candidare a nulla, eccetera. Io non voglio parlare di peculati o cose di ma no, peggio Renzi di Fiorito. Dal punto di vista delle spese pubbliche, sì, certamente. Cioè, ha speso più soldi pubblici, buttato via più soldi pubblici. Guardate che noi abbiamo fatto il calcolo a ribasso e negli anni della provincia. Sì. Non tornano i conti per 31 milioni di euro. Ma dai, sì, beh, c'è una denuncia, una denuncia che è stata archiviata. Vabbè, ho capito, 31... se è stata archiviata vuol dire che non c'è niente. Appunto, dite così che non c'è niente. No, non dico che se è stata archiviata, scusa. È stata archiviata, non significa, che siccome hanno archiviato non ci che c'è una niente. Copertura, che c'è tutti. Vabbè, insomma, io questo non lo posso dire soltanto che io non avrei archiviato, poi invece 31 peggio di Fiorito, addirittura peggio di Fiorito. Beh, cioè... Fiorito poi sai, alla fine gli è rimasto poco, perché a parte i soldi che ha preso per le cariche che rivestiva, per il resto tutte le altre voci sono state tutte escluse come fonte di responsabilità. Allora Parenzo, tu devi sapere che forse si risolverà la questione della Franzoni, la grande diatriba Franzoni Taormina, perché una volta venne da noi Taormina a dire che la Franzoni gli deve 1 milione di euro, circa 770. Ma vabbè, buonaglieli ormai, dai, ma che ti frega. Mi dispiace. In una decisione, cioè in una valutazione interlocutoria sulla quale stiamo facendo le hanno proposto una transazione. Hanno proposto una transazione di 350-400 mila. E Pia desistere 150 mila euro. No, io voglio quello che mi spetta. Vabbè, ma ho capito. Ma che razza di roba è 700 mila? Che parcella è quella? È stata pure condannata per giunta. Ma mica tutti fanno il mestiere di Parenzo che lo pagano poco. Io vengo pagato in base alle tariffe professionali e questi sono i conti che sono. Ma scusa, ma non hai bisogno di 350 mila euro che te dà la Franzoni? Scusa, 350 va bene. Ho bisogno, certo. No, perché non. Ma che bisogno hai? Non hai bisogno di 350 mila euro? Ho bisogno di far pagare il lavoro che ho fatto. No, ma non hai bisogno. Su questa ragione. Fai pagare il lavoro, è giusto che uno si faccia pagare il lavoro. Ma pigliati la casa, perché non ti sei fatto dalla casa? Beh, adesso lo vedremo, questo è un altro problema. Cioè, la villetta di Cogno. Potresti fatti dare la casa di Cogno. E che ci fai con la villetta di Cogno? Un bed and breakfast, chi se ne frega, la mettono all'asta e... Ma che ci faresti? Un bed and breakfast? Che ci fai con che ci faresti con la casetta di Cogno? La potresti mettere a reddito? La potresti mettere a reddito? Un museo di Taormina, bellissimo. Ma all'asta e viene venduta, tutto qua. Il ricavato me lo prendo io, tutto qua. Certo. No, ma scusami Carlo. Che sia logico. Sì, logicissimo. Scusa Carlo, ma la prenderei e farei un'attività commerciale. Si potrebbe fare anche questo. No, io non faccio il commerciante, io faccio il professore universitario e faccio l'avvocato. Quindi, sì, d'accordo, però voglio dire, potresti anche. Se la compra ci potrà fare quello che vuole, se ci riesce. Ma adesso che altri criminali stai difendendo in queste ore? Ma perché non difendi? Tu ancora è Parenzo, dovremmo difendere. Scusami Carlo, perché non difendi uno di questi poveracci? No, figurati se difendi i poveracci. Uno di questi delle banche, dei truffati dalle banche. Ah, volentieri, se vengono. Gratis. Beh, no, gratis non si fa niente. Tanto quindi le spese le pagherebbe sicuramente la Banca Etruria della Boschi, come si chiama lei, per cui non c'è. Ma non è della problema. Boschi la Banca Etruria, scusa. No, ma non è della Boschi. È riferita alla Boschi. Ma no, il padre non funziona. Non è riferita a nessuno, ma non è vero. Che sono le indicazioni di oggi, parecchie persone della sua famiglia lavoravano alla Banca. Due, in realtà. Ma non è sua. Ma non è che se uno ci lavora è sua. Ma insomma, vabbè, ho capito, c'è stato il padre che è stato un alto dirigente nei periodi in cui c'è stata le cose delle quali stiamo parlando, la vendita dei spostinati. Ma che, scusa, poi ma io tornando sulla questione di Cogne, no, della casa di, ma alla fine anche se ti danno sta casa di Cogne, la Franzoni, ma chi se la compra? Ma lì è stato ammazzato un bambino, credo. Ma a me non me ne frega niente, perché la ma chi se la compra? Vendere, ma no, la deve vendere lo Stato. Ma lo Stato non riesce a venderla, non riuscirebbe a venderla. E se non riesce a venderla, qualcuno se la prenderà in qualche modo. Ma nessuno va a abitare in quella casa, è una casa. Ma tu ci andresti, tu dormiresti una notte là, tu dormiresti una notte in quella casa? Io non vedo niente di strano. Cioè, tu dormiresti una notte in quella? Io non ci credo, Carlo. Che E che c'è di male? Scusa. Vabbè, ma la casa. No, però fa un po' impressione. Muore la gente. Sì, ma fa un po' impressione. Se tu sai quella è la casa di Cogne, dai, su. No, ma io la conosco bene la casa. Per cui non beh, certo. Abbiamo fatto grandi indagini. Sopralluoghi lì dentro. Sopralluoghi, indagini, certo, tutto. Certo. Ma scusa, e l'ispettore Gelsomino? Che fine ha fatto Gelsomino? Ah, non lo so. Tu lo invitavi sempre quando stavi a Tele Lombardia lo invitavi in continuazione, sì, perché lo ritenevi un grande investigatore. Ma era un tuo consulente. Ma era un tuo consulente. Io ho una grande idea. Sì. Potremmo fare la casa di Cogne e trasformarla nella casa dei gay. Bellissimo. Di Gelsomino. La casa di Cogne potremmo trasformarla nella casa dell'Arcigay, in una sede dell'Arcigay. Va bene, stupendo. Un regalo di Taormina all'Arcigay. Regalo, mai regali. Fermi tutti, che torniamo. Regalare mai. Lei è super intelligente, ma c'è nato super intelligente o c'è diventato con la trasmissione che fa? Non lo so, me lo chiedo sempre. La Zanzara. Cruciani è un malato che si deve far curare, perché per lui va tutto in vasca. No, dai, non possiamo far andare a casa la Boschi. È la più figa del Parlamento, Cruciani. Chi è contro la Boschi è contro la figa. Sulla Boschi, Cruciani servo. Complimenti. Salvini per il premio uomo più coraggioso del mondo. Dopo tutto quello che ha rubato la Lega, riesce ancora a parlare di soldi. Allora, gira una roba sul web, Parenzo. Tu eri azionista con la foto della Boschi. Tu eri azionista, tuo padre vicepresidente, tuo fratello dipendente, la moglie di tuo fratello pure, perché si sono conosciuti lì. Il giudice tuo consulente. E io aggiungo anche un signore renziano difensore della Banca Etruria. Non sei un ministro, sei un conflitto di interessi ambulante. Ma non mettiamo tutto insieme. Beh, insomma, sì. Perché la Boschi aveva delle azioni, dire, poche migliaia di euro. Però bisogna azioni, dire ma anche il problema esiste. Alcuni problemi, ma non mettere tutto insieme. Cioè, non questo qui non deve mettere tutto insieme, secondo me, perché sennò si fa confusione e non si capisce qual è il vero problema. Quello del PM che indaga sul caso ed è consulente del governo può essere un problema. No, è un problema grosso come, certo, una casa. Non capisco perché sia stato nominato. Forse questo lo posso capire, diciamo, lo posso intuire, ma perché non se ne vada immediatamente invece di rimanere fino a dicembre, cioè fino alla fine dell'anno come è previsto dal suo contratto? Cioè, è una cosa incredibile. Il PM che fa il consulente, tra l'altro già questa è una mezza follia secondo me, cioè un PM che fa anche il consulente del governo, ma dove si è mai vista la cosa? Un PM in attività, c'è uno che fa attività di indagine come il PM che guarda caso poi si è interessato, si è occupato del caso della Banca Etruria, che fa il consulente del governo per 5.000 euro, una cifra minima, non c'è dubbio, no, però mi sembra cifra, totalmente inopportuna la cosa, totalmente inopportuna. Voglio chiedere all'avvocato. Ma Taormina come festeggia il Natale? Taormina, ad esempio, ha fatto i regalini per i suoi nipotini? Ha fatto. Come festeggia il Natale Taormina? Il Natale di Taormina, bellissimo. Carlo! Eccomi! Ma qual è il Natale di Taormina? È il Natale, perché? Ma Natale. Fai i regali ai nipotini? Fai i regalini ai nipotini, a tutti, no? Ma io non regalo niente a nessuno, guarda. Perché? Ma come non fai regali? Perché scusa, Natale? No, niente. Non niente. Ti piacciono i regali? Un bell'albero con i bambini che è una bella cena. No, l'albero. I regali non si fanno. Ma i regali? I regali no. Più, orologi, cose però belle. Però dovete ricordare che anche a Firenze non regalo niente a nessuno. Al comune di Firenze fa il consulente l'ex procuratore della Repubblica di Firenze. Ex però, appunto, che ha dato in pensione. Vabbè, ho capito, questa è l'attività. Questa è l'attività, la differenza. Scusa, ho capito, ma scendere le scale della Procura di Firenze per salire quelle del comune di Firenze. Vabbè, ma quello può essere in pensione, va bene. Che problema c'è? Quello può essere un motivo di opportunità. Siete diventati molto comprensivi. Ma noi comprensivi. Ho sentito anche Parenzo che ha detto che quattro persone della famiglia che stanno dentro della Boschi, che stanno dentro alla cosa, dentro alla Banca Etruria, il procuratore della Repubblica di Arezzo, che è consulente fino al 31 dicembre 2015. Infatti ho detto che è grave. Parenzo dice che non è grave, non bisogna mettere... Io metto tutto insieme. Siete diventati dei servi del potere anche voi. Carlo ha ragione, bisogna mettere le cose insieme, perché le cose vanno messe insieme. Dipende, dar valore e peso alle diverse responsabilità. Senti, pensa a fare i regali di Natale alla tua famiglia, anziché... Io faccio quello che mi pare, se non voglio fare regali a nessuno non li faccio. Ma come si fa? Fai due regali alla famiglia di Natale, no? Non sviare l'attenzione, perché questo è un problema serio. Quando ci sono stati stessi problemi con Berlusconi, è successa la fine del mondo. Ha ragione. Io sono d'accordo sul fatto che devono chiarire. Con Berlusconi succedeva l'inferno, lo avrebbero impiccato. Bastava una minima cosa. Ma infatti fanno la mozione di sfiducia per la Boschi. Giustamente. Sì, vabbè, ma che è una mozione di sfiducia che serve? Che devono fare? Decapitarla in piazza? Serve niente. Perfettamente. No, ma ho capito, ma che devono fare? Ma perché, scusa, ma la cancellieri non se n'è andata? Per molto Boschi, meno, ecco, dai. Però il caso della cancellieri per ora è diverso da quello della Boschi. No, certo che è diverso, però sta di fatto che lì c'è proprio un'azione fatta dal ministro. Qui non risulta esserci ad oggi un'azione fatta dal ministro. Ma tu vuoi scherzare con quello che sta succedendo col sistema bancario di queste quattro maledette banche che hanno distrutto centinaia e centinaia di persone? Ma tu che faresti con gli amministratori? Che faresti? Vanno impiccati gli amministratori di queste banche? No, non vanno impiccati, vanno mandati a casa e messi sotto processo. Che è successo? Breaking news. La Federal Reserve ha annunciato, come era nell'attesa, il primo rialzo dei tassi di interesse da giugno 2006. L'incremento è di 25 punti base e porta tra lo 0,25 e lo 0,5% i tassi americani fermi al livello minimo esattamente da 7 anni, il 16 dicembre 2008, quando l'allora presidente Ben Bernanke decise di azzerare il costo del denaro per combattere la recessione. Al momento quindi il Dow Jones guadagna lo 0,61%, euro-dollaro in calo a quota 1,09,10. L'attesa è per le dichiarazioni del numero uno della Banca Centrale, Janet Yellen, che parlerà alle 8.30. Ed è tutto. Vabbè, a noi della Zanzara non ci frega un cazzo di queste cose. A me non me ne frega un cazzo. Devo dire la verità, mi frega qualcosa? La risposta è no. A me non me ne può fregare di meno. Però non puoi dire così. Vabbè, a me non me ne frega un cazzo. Che ti devo dire? Cioè, devo dire che mi interessa? Devo essere sincero, come sono sempre sincero. Non me ne frega niente, punto. Cioè, dunque, riprendiamo le nostre discussioni. Allora, caro Carlo, sei d'accordo con Trump quando dice che bisogna cacciare gli islamici, non bisogna più accogliere gli islamici in America? Lo faresti anche tu in Italia? Io raddoppierei, nel senso che sempre con riferimento agli islamici terroristi. Sì. No, lui dice islamici, lui dice gli islamici, tutti gli islamici. Guarda, tutti. Io dico che devono uscire quelli che ci stanno e non devono entrare quelli che non ci stanno. Cioè, gli islamici che ci stanno li manderesti via? Io manderei via, allora. Tu manderesti via tutti, dai. Tu manderesti via. Siamo alla follia. Per quanto riguarda i terroristi. Il problema è che bisogna capire qual è il confine tra l'integralismo. Quello d'accordo, li manderesti via tutti o no? Io rimanderei via tutti i terroristi. Ma quello è scontato, Trump ha detto non farei entrare più musulmani in America. Sei d'accordo o no? Ma guarda, tendenzialmente sì, anche se sono portato a distinguere a seconda delle situazioni. Mamma mia, sei diventato moderato. Poi noi siamo diventati moderati. No. Siamo noi a essere diventati moderati. Voi siete dei moderati, perché in realtà. Ma che moderati, sì, moderati. Sì. Moderati cazzo, come dice. Quando Parenzo giunge a tutelare le posizioni di chi fa. Come ti permetti? Ma che ecco, no, è la verità. Ma come ti permetti? Non tutelo proprio nessuno. Dico dobbiamo che per dare. Va dato peso alle cose. Cioè, sicuramente il ministro. Ma scusa, io non ho capito. Dare peso alle responsabilità. Vabbè. Altrimenti sembra tutto uguale. Questo dico. Il ministro ha delle responsabilità. Lei direttamente ad oggi no. Però deve rispondere. Una signora di Parma si è messa, non so se hai letto poi la storia. Faccia i regali di Natale ai nipoti, scusa. Ma io, ma falli tu. Ma, ma però ha ragione su questo, Parenzo. Un ma regalino scusa. Potresti farlo, dai. Uno. Dai, uno regalo un cazzo. Un milione di euro all'anno, anche di più. No, anche scusa. Di più, anche di più. Tu un milione, quanto tu no, ma perché? Io non guadagno niente. Sì, niente. Ormai sì, sono in disuso. Sì, in disuso. Allora, no, allora io dico una cosa, tutto Carlo. Quello che guadagna una cosa la Carlo, io dico una cosa sola. Una signora di Parma di 45 anni si è messa con un giovane 25 anni marocchino che poi è roba buona, quella roba buona per la e vabbè che significa roba cosa buona per la signora? Beh, insomma, carne fresca. I marocchini hanno una buona nomea, no? Sotto certi profili. Cioè, i luoghi comuni classici, eccolo là. Cioè, tu dici eccolo là, i luoghi hanno comuni hanno un pisello enorme, dici, no? Tu controlla i marocchini e poi ne parliamo. Ma io non controllo proprio nessuno, quello lo controlli tu. Scusa, in che senso controlli i marocchini? Ma quello lo controlli tu. Vabbè, comunque, no, la signora si è messa con questo. A te che piace quella materia, sono controlli tuoi, se tu che sei molto sei aperto tu. A certe li cose, controlli tu aperto. Quelli, sono controlli vabbè, allora, tuoi. Il problema, i marocchini sono molto ben dotati, no? Giusto, Carlo? E la signora si è messa con... tu c'hai la prostata, ormai non fai più un cazzo da tempo, che te frega. Allora, il punto è un altro. Che la signora è stata però ammazzata da questo signore, che era anche tossicodipendente, o comunque sembra che fosse irregolare, eccetera, eccetera. E qualcuno sostiene, per esempio una dei 5 Stelle, non so di dove, di Civitavecchia, sostiene che alla fine, se tu ti metti col marocchino più giovane dei 20 anni, di 25 anni, quello che è, pregiudicato, un poco di buono, irregolare, te la sei un po' cercata, cioè, alla fine, no? Cioè, o no? Beh, cioè, è un rapporto squilibrato, sicuramente, su questo non c'è dubbio. Ma da qui a giustificare l'uccisione, mi pare che no, sia, giustificare sia l'uccisione, dire che se era un po' cercata, questo sto dicendo. Beh, se l'ha cercata. Certo che se l'è cercata, l'esposizione al pericolo c'era. Quindi... L'esposizione al pericolo? Certo. Tu dici è un rapporto squilibrato. Un rapporto squilibrato. E quando il rapporto è squilibrato può succedere di tutto. Dunque non c'è da stupirsi se è successo questa roba qua. Questa, certo. Beh, vabbè, poi sai... Poi. La concezione che hanno i marocchini, gli islamici in genere rispetto alle donne la conosciamo tutti. La conosciamo, È molto semplice. Ma oggi non sei incazzato per la Roma? Non sei incazzato per la Roma? No, oggi. Sono imbestialito. Io mi auguro solo che questo abbia il senso della dignità di andarsene per conto suo, perché mi pare che quella è una società nella quale non comanda più nessuno. Ma chi? Garcia dice. Comanda? Parlo di Garcia. Se ne deve andare, Garcia. Beh, ci ha rotto le scatole, per me è dall'altro anno, quando uno fa 10 partite di seguito con 10 pareggi, quando tu sei in lista per poter vincere lo scudetto, credo che bisognava da quel momento cacciarlo. Beh, eliminati con lo Spezia, caro. È una vergogna, i rigori. Mamma mia. Già arrivare ai rigori e poi sbagliarne due come è successo. Mamma mia, chi c'è? Ma perché mi volete passare sto Rocco? Rocco, che c'è? Che c'è? Questo no. Che di Udine, no, è di Udine. No, è di Parma. Pronto? Sì, Rocco di Parma. Cruciani. Dimmi. Ciao, sono Rocco. Dimmi. Allora, io ti dico, ero in macchina, mi sono dovuto fermare perché c'avevo i coglioni che mi giravano a 2000. Ma tu non sei di Parma, sei romagnolo? No, sono di Parma. Ah. Allora, parlavate prima di rapporto squilibrato, ma ragazzi, ma chi c'avete al telefono? Cioè, io vorrei porre l'attenzione su questa roba qua. Non ci casco. Cioè, uno squilibrato al telefono che si propone come giudice per la Corte Costituzionale. Vabbè, è una cosa scandalosa. Cioè, questo qui, allora? ma sei uno che ha difeso tutti i peggiori criminali della storia, la Franzogna, fa il suo mestiere. Ragione, Rocco da Parma ha ragione. Ma scusami, sei uno allora Taormina, sei un mercenario. Che fanno? Vabbè, ma fa l'avvocato. Vabbè, Rocco, questa non è un'argomentazione, dimmi un altro. Ha difeso i peggiori criminali. E vabbè, ma ascolta un attimo, ma questo qua è un razzista xenofobo. Oh, ma cosa ne dite sugli omosessuali? Ma questo qua è un omofobo. Ma questo qua deve andare in Corte Costituzionale. Buonasera, uno che parla così degli omosessuali. Ma questo qua deve andare a farsi curare prima di andare in Corte Costituzionale. Taormina. Ha finito? Però l'ascoltatore ha ragione. Ha detto delle cose terribili sugli omosessuali. Certo che c'ha ragione. Cruciani, ti posso dire la mia? Dimmi. Allora, Taormina in Corte Costituzionale ci può andare andare a sturare i bidet. Quella è l'unica cosa che può fare in corte costituzionale. Addirittura. Va bene, sì, va bene, perché è un omofobo criminale, in corte costituzionale non può fare nient'altro. Allora, e sbaglia a dargli voce. È una cosa schifosa. Se lei è il solito imitatore del quale si avvale Cruciani, ma quale imitatore? Ma che c'entra? Allora, le dico una cosa, sarai una cosa, tu, imitatore di una persona per me, di una persona serio. Lei ha detto delle cose, delle quali dovrà rispondere. Ma che ha detto? Ma che ha detto? Non ti preoccupi, glielo dico io poi. Ma che ha detto? Glielo dico io. A chi rispondo? A chi rispondo? Faccia. Dimmi a chi rispondo. Continui. A chi devo rispondere? Vabbè, basta. Ho espresso l'opinione. Vedrà che ha qualcuno. Troppo violenta sta cosa, Rocco. Troppo violenta. Gli ha detto semplicemente delle sue. Ho detto il mio punto di vista. Ma che punto di vista? Ma gli ha ricordato. Chi si candida come giudice della Corte Costituzionale? Oh, punto di vista. Vabbè, ma è troppo violenta. Troppo violenta. Per mettere un po' le cose a posto, certo. Troppo violenta. Come lei, ha capito? Vabbè, meglio come me che come lei, però, perché sono stronzo, ma meglio stronzo che omofobo. Questo è da querela. Questo è da stronzo che omofobo e criminale come te. Questo è da querela. Hai capito? Vabbè, basta. Meglio stronzo che come te, criminale omofobo. Vabbè, dai. Va bene. Ma sei un disco rotto, Rocco. Sei un disco rotto. Scusami, Rocco. Vai, basta, Rocco, chiudiamo. Dai, chiudiamo. Posso avere il telefono di questo signore oppure no? Sì, te lo do dopo. Ecco, sì, te lo mi do. Fai una cortesia. Sì, sì, sarà un solito vostro adepto che fa queste operazioni. Adepto è Scientology, fosse, adepto. Ma che adepto? Fosse, come? Ma gli adepti sono quelli di Scientology di altri. Scusami, guarda che Rocco da Parma. Guarda che Rocco ti ha soltanto ricordato che per le tue dichiarazioni sugli omosessuali non è che puoi ambire a fare il giudice della Corte Costituzionale. Questo ha detto Rocco al netto del suo linguaggio e della sua. Criminale sarai tu. No, io ho detto. Sarai un criminale. Ma chi ha detto criminale? A me questo ha detto questo signore. Vabbè, ha ricordato le tue dichiarazioni sull'omosessualità e si è chiesto. Può essere quest'uomo giudice della corte? Non è un reato. Vabbè, comunque, guarda che anche la corte Costituzionale, secondo me, è piano di cose prove. Per le quali sei stato condannato per giunta per quello che hai detto sugli omosessuali. Non è un reato, hai capito? Quello non è un comunque, reato. Ho capito, però, no, un ruolo importante. Comunque, ragazzi, come per me, anche la Corte Costituzionale è piena di froci. Io vi voglio avvertire di questo. Ma che non lo sapete voi, io non lo so. No, ma secondo me è così. Vabbè, ciao, Carlo. Ciao. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Breaking news. Doppia seduta allo stadio Ricci quest'oggi per il Sassuolo Calcio. In mattinata la squadra si è divisa in due gruppi che hanno alternato lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo con esercitazioni specifiche per reparti. Nella sessione pomeridiana i nero-verdi hanno effettuato torello, riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche in vista della partita. Domani è in programma una seduta pomeridiana sempre allo stadio Ricci su Sassuolo Calcio News Online. Ogni giorno tutte le novità sulla grande squadra Mapei. Veramente sei diventato un lecchino. Cosa è successo? Un lecchino. Cosa è successo? Patentato, cioè. Cosa un lecchino patentato. Sei diventato veramente vergognoso, guarda. Sassuolo Calcio. Cioè, tu fai scattare la breaking news per dare gli aggiornamenti sugli allenamenti del Sassuolo, sì, che è la squadra di proprietà del signor Squinzi, che ci è anche colui che il presidente di Confindustria, cioè il capo di questa radio praticamente. E ci mancherebbe altro, certo. Ma è incredibile. Ma ci mancherebbe altro. Tipi da zanzara, vai. Tipi da zanzara. Il signor Talbi sarà sicuramente extracomunitario, musulmano, magari. Talbi, vai. Ciao, re della radio. Oh, dimmi. Puttana. A noi, sinceramente, la politica non frega un cazzo. Questi discorsi di parola. Noi chi, professore? Scusi, professor Talbi. Ciao, Paresso, noi camionari, ciao. Camionisti. Chi stai portando? Merce variata? Che stai portando in giro per l'Italia? No, non porto un cazzo, io porto ferro, porto pannelli, porto quella roba là, ecco, non porto puttane dietro il rimorchio, magari, se no lo trombo tutti, porca vacca. Signor Talbi, ho capito. Hai capito? Cruciani, re della radio. Cruciani. È sempre il re, parlami gentilmente di Troia, a noi non ci interessa il cazzo politica. Guarda che a me mi è venuta un'idea, che dobbiamo candidare Crociani, sindaco di Roma, Crociani. E magari lui metti Nappi il vice sindaco, hai capito? E io faccio l'autista magari. Lei è di fede, lei è anche di fede islamica o no? Cioè è musulmano? Sì, fede. Però sì. Ti piace figa, musulmano piace. Porca puttana, magari figa pelosa, Crociani. Vabbè, questo però, adesso è il bestaglio, è ininfluente. Sono maiali come Crociani, identico, uguali, non mi lavo, così trombo, non me ne frega il cazzo, però il problema è che non mangio maiale. Maiala sì, femmina però, cruda, porca vacca. Però scusa, questo è pazzo, non dai, sei, è un musulmano. Non sei il prototipo della religione islamica, non sei il perfetto islamico, no o no? Ma scusami, tipo Crociani, ma dai, anche gli islamici piacciono la figa, dai. Tradisci regolarmente tua moglie? Mi pare di sì. No, non ne ho soldi, vai a puttana, non ne ho soldi da pagare per far trombare. Ho quattro figli, non arrivo neanche a fine mese, figurati se io pago la puttana. Non ne ho schei, non ne ho soldi. No, come fai a pregare tu quando preghi? Che dici? Ma preghiera, cosa vuoi, della mattina? Sì, quella della mattina. Boh, ti dico in arabo, loro cominciano così. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sì. Alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim malik yawm al-din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladh-dhalin amin wa salatu wa salam 'ala asrafil mursalin. Che cazzo vuol dire, scusami? Ma che cazzo sogni, Camille? Tipi da zanzara. Ed ecco il 393 71 71 701. Datemi il numero di questo Talbi, lo voglio come mio migliore amico. Da oggi in poi il signor Talbi sarà il mio nuovo migliore amico. Lo voglio sulla spalla, come il grillo parlante. Deve essere la mia coscienza, sulla spalla destra lo voglio. L'Islam moderato esiste e viva il signor Talbi. Facciamolo ambasciatore, ambasciatore dell'Islam moderato nel mondo. Allora andiamo a provincia di Cuneo. Danilo, vai. Gianni, tutto bene? Tutto perfetto, Danilo. Senti, mi stai simpatico, però che cazzo c'hai su con sti vegetariani? Io sono vegetariano, non rompo le palle a nessuno. Quando vado a cena con gli altri, a volte mi fa sentire un alieno. Io mi siedo vicino a loro che mangiano loro antibiotici nella bistecca e pipì, tutto quello che c'è nella carne, non gli dico niente, non gli rovino la cena. Che cos'è che mangiano nella carne, scusami, la pipì? Nella carne c'è pipì, sangue e antibiotici a gogo. Quello, analizzati la bistecca che aveva nel piatto stasera, invece un pezzettino, invece di mangiarlo lo porti in un laboratorio di analisi e vedrai cosa c'è dentro, ma a me non frega niente. Dentro la bistecca c'è la pipì. Dentro cioè, la... certo, resti di urina, c'è tutto. Ho capito, ma che vuol dire? Anche se te mangi la verdura, tu mangi la verdura, cosa vuoi che ci sia dentro la verdura? Ci pisciano nei campi la verdura, no? La lavi no. Come la carne, la cuoci, allora, furbo, dai. Ci sarà cosa ci sarà, però... Lascia vivere sti vegetariani, nessuno ti rompe le palle, dai. No, io ti ripeto. Danilo, io non ho nulla contro. Democrazia, libertà, dai, per tutti, di far quello che ci pare. Appunto, è quello che dico io. È esattamente quello che dico io. Quello che non vogliono loro, però, i nazi vegani. Quello che dicono loro. Dai, i nazi vegani. Detto, ogni tanto se lo mangeranno anche loro. Anzi, più ci mettete in un ghetto, più ci puntate il dito, più ovviamente. Si diventa tra virgolette talebani, perché ci si sente ghettizzati, ci si sente quasi alieni, quasi extraterrestri. A me capita a volte di andare a cena e mi si chiede: ma tu cosa mangi se non mangi la carne? Cazzo, ne mangio di roba, mangio e sto bene. Sono ma chi ha detto che, gli altri invece sono ciccioni? Chi non è vegano è ciccione, non ho capito. No, ma io prima ero ciccione, adesso sono diventato magro, ma senza sacrifici. Ma io conosco dei vegani che sono obesi, figurati un po'. Secondo me è qualcosa che non quadra a livello metabolico, sicuramente, di metabolismo. Vabbè, Danilo, ciao. Mino, Bergamo, vai, Mino. Mino? Buonasera, sono vai. Da Imola, sì, buonasera. Volevo intervenire sul fatto del cassonetto di quel signore che si è purtroppo ammazzato. Sì. Non si è ammazzato, è stato, come dire, decapitato dal cassonetto che gli è piombato sulla testa mentre stava cercando di uscire con del rame sotto braccio, come la banda Bassotti. In una piazzola, in una isola ecologica. Vabbè, allora? Io ho fatto questo lavoro, faccio il camionista. Siccome che non si possono prendere niente dalle piazzole, né dai cassonetti, né fuori dai cassonetti, Niente, è vero, è 10 anni che c'è questa legge, anche di più. Per cui non si può risarcire una persona che è entrato dentro un'isola ecologica di notte con le telecamere, cancelli chiusi, è come andare a rubare. Eppure chiedono 300.000, amico mio. Chiedono 300.000. A Casal Fiumanese un signore si è bruciato vicino a dei cavi di rame, l'hanno lasciato lì i loro colleghi ladri, sì. Ma nessuno ha risarcito danni, l'hanno portato fuori, cioè, col muletto. Un ascoltatore mi ha fatto un esempio prima: se uno entra dentro una casa, un ladro prende una bottiglia, pensa che sia, che ne so, c'è scritto sopra Coca-Cola, beve la Coca-Cola, in realtà c'è acido muriatico dentro e crepa per l'acido muriatico, che fai? Causa al proprietario della casa perché non in evidenza la scritta acido muriatico? Che cazzo ne so, cose di questo tipo sono, non è un paradosso, dai, la realtà, insomma, la realtà, cioè la realtà di quello che sta succedendo in alcuni casi. Vabbè, dai, Gennaro, provincia di Caserta, vai Gennaro. Certo, no, se buonasera, se chiama e va in casa e ruba una bottiglia sapendo che c'è Coca-Cola, poi chiama l'avvocato Taormina, viene risarcito sicuramente. Beh, oddio, No, sai perché? Perché comunque in effetti la piaga di questo paese, la maggior parte sono gli avvocati, perché hanno la faccetta di andare a difendere ladri che, oppure mafiosi che hanno all'attivo 10, capito, ma gli avvocati sono sempre esistiti, cioè in tutto il mondo, per fortuna. Ma dove ci stanno dei reati, che c'è una rea confessa, una cosa che dovrebbero difendere? Ho capito, ma servono sempre. Comunque, cioè, senza avvocati non è uno stato di diritto, amico mio. Cioè, se scomparissero gli avvocati, in altri paesi gli avvocati, se te li fornisce, magari sei in causa con lo Stato, te li dà lo Stato. Sono d'accordo con loro. Dove c'è un'imputazione di rea confessa, no? Da parte Ho capito, ma comunque serve un avvocato. Ho capito, serve comunque, dai. Cioè, la maggior parte dei mafiosi, tutti i budget che mettono insieme con lucro, lo sai chi ne gode? Gli avvocati. Vabbè, gli avvocati godono. Può essere, sì. Vabbè, allora... Scusate, volevo dire un'altra cosa, io il mio intervento era diverso. Volevo dire, ma scusa, ma gli italiani in quel caso delle banche non sono state truffati due volte, no? Cioè? Una volta dal governo perché hanno preso dei soldi pubblici per salvare le banche, giustamente. Non sono state usate soldi dalle pubblici. Banche. No, non so, fino adesso non sono soldi pubblici. Fino adesso poi... non sono soldi pubblici. Poi... Dove li ha presi? A casa tua i soldi? Da un fondo che si chiama fondo interbancario. È un fondo di altre banche. Dai, Gennaro, poi? Questo volevo dire. Prima i soldi pubblici in un caso poi, E poi semplicemente un'altra cosa, no? Ma in Italia, cioè, esiste, è vera sta cosa che ho sentito, no? O mi pare di aver letto da qualche parte, che in Italia chi è che magari gode di una certa immunità o di un certo spessore economico e ha in vista del sociale, è vero che ha facoltà di poter scegliere il controllore. Vabbè, Gennaro, ciao. Marco da Lecce, vai Marco. Oh, buonasera, ciao. Dimmi. Buonasera. Io vi ascolto, il mio intervento è un po' strano perché oggi vi ascolto un podcast e quindi riguardo ieri. E mi chiedevo perché proprio non ce la fate a non leccare il culo a volte. Tipo, mi riferisco. Pronto? Sì, ti sento, dimmi. Mi riferisco a Minzolini ieri, grandioso intervento. Questo qui viene condannato prima perché si usa per i cazzi suoi soldi per l'azienda. Poi fa che cazzo di vuole. Marco, non ti sento. Linea disturbata, a dopo. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Lei solitamente è molto maleducato. È molto volgare e ignorante. Caro Parenzo, diamo indicazioni fondamentali per la vita. Diamo indicazioni molto molto importanti, soprattutto a tutte le donne che sono in ascolto. È uscita Guerre Stellari. No, è uscito il film, il nuovo episodio di Guerre Stellari. È uscita un'altra grande ricerca sul sesso in Italia, una grandissima ricerca. Stavo leggendola poco fa. Allora, 50 cose che le donne devono sapere sul sesso. Anzitutto le più giovani e inesperte. Il primo orgasmo bisogna stare molto attenti e concentrati. Il primo orgasmo procuratevelo da sole. Fare un pompino senza usare le due mani è difficile come azzannare una mela in un secchio d'acqua. Beh, oddio, su questo si può obiettare, però, eh. Non c'è bisogno di un pene sempre eretto per divertirsi a letto. Beh, anche questo, insomma. Il miglior orgasmo femminile è il cunnilingus. Ampiamente dibattuto come tema qui alla Zanzara, Parezzo, il cunnilingus, come sai, no? Mi pare che tu ne sia un professore di, proprio in cattedra. Quasi emerito, quasi emerito. Ordinario, si ordinario. Se il tuo partner non sa baciare e sa solo infilarti la lingua in gola, allora sarà inutile a letto. Cioè il bacio come test fondamentale. Se desideri provare una cosa a tre, non includere la persona che ami. Gli uomini sono visivi, amano le cose, guardare le cose sexy, che sia lingerie o porno. Amano guardare, verissima questa cosa, verissima. I preliminari sono importanti, le sveltine grandiose, ma solo ogni tanto, a lungo andare insoddisfacenti. Su questo avrei un po' da obiettare. Comunque, rifiutare il senso di colpa per le tue fantasie. Molte persone sentono in colpa di avere delle fantasie spesso, eh? Il sesso implica sudore, puzza, rumore. Beh, direi che il 70% di queste cose sono vere, secondo me, il 70%. Io però mi sono fissato su questa cosa qua di Gelli, di voler fare forse alle 20:38, perché prima erano in chiesa, sembra. A proposito di Gelli in chiesa, devo dirti la verità, caro Parenzo, ancora una volta c'è la camera ardente, ancora una volta la chiesa, dopo aver rifiutato, no, ti ricordi? Esegui al signor Welby, al signor, solamente perché era a favore dell'eutanasia, eccetera, eccetera, no, lunga storia di militanza radicale, tutto quello che vuoi, cioè... Ospita la camera ardente al signor Licio Gelli, che ne ha combinata, insomma, una, no, più che di... si è fatto seppellire con, dai, su, le effigie e gli stemmi del, cioè, fascismo. Dopo i Casamonica, Gelli, e poi no a Welby, e soprattutto no alla cresima, a quello perché è omosessuale. Questa è la chiesa. Beh, quella è un'altra storia. Questa è la chiesa, questa, no, è la chiesa. Villa Wanda. Villa Wanda. Che forse hanno staccato il telefono, eh? Forse, cioè, non c'è più lo squillo Villa Wanda, capito? Capito? Beh. Enzo Vicenza, vai. Enzo da Vicenza. Ehi, sono qua. Vai, Enzo, hai chiamato tu, mica ho chiamato io, amico mio, dai. Certo, sono qua. Ti volevo dire che io provo schifo per questo governo di merda. Sai perché, oltretutto? Perché? Dimmi. Perché noi abbiamo 130 deputati del PD, sì, che sono abusivi, sì, e questi signori, in che senso 130 deputati PD abusivi? Non solo quelli, evidentemente, tu stai parlando della famosa questione della Corte Costituzionale, eccetera. Esatto. Vabbè, esatto, non sono solo, esatto, quelli abusivi. Ah, tu dici quelli che del premio di maggioranza, tu dici. Beh, caspita, questi qua sono quelli che contano adesso, continuano a legiferare da anni, è possibile che questa cosa possa andare avanti? E la Corte Costituzionale, a questo punto, che cazzo ci sta a fare in un paese dove fa delle declaratorie tanto precise e poi non interviene? Ci sarà qualcuno che dovrà intervenire. Poi, cioè, poi che vuoi dire, oltre al fatto che questo governo di merda ti fa schifo perché che non può, il Parlamento non può legiferare? Ma questo soprattutto, insomma, in questo momento. Poi tutte le cose che avete detto sono giustissime, insomma, la banca nel momento in cui c'ha dei dirigenti e questi dirigenti hanno dei padroni, e padroni e dirigenti si mettono d'accordo per trombare la gente, perché chiaramente questo è successo, diciamo la verità, fatte in quella maniera lì, lo capisce, sì, anche un bambino che era fatto per trombare la gente, no? Ah, ma ecco, non c'è dubbio su questo, non c'è questi dubbio. Questi vanno in galera e vanno anche a pagare, cioè vanno confiscati tutti i beni che hanno. Sarà molto difficile che vadano in galera e che paghino, molto difficile. Se la piglierà, so, in quel posto la gente che la gente onesta che in qualche caso ingenuamente, devo dire, si è ha fatta, investito là, ha messo i propri soldi lì. Marco da Lecce, vai. Marco. Dai, dimmi. Il mio intervento è un po' estemporaneo, riguarda ieri sera, perché oggi vi ascoltavo in podcast. Sì, vabbè, abbiamo capito, dimmi. Eri quello di prima che non si sentiva, vai. Sì. No, dico l'ottimo, le grandi interviste della Zanzara, proprio a Minzolini, un pluricondannato che utilizza prima i soldi come cazzo gli pare, praticamente, poi sposta la gente al proprio piacimento, poi lo chiamate voi, telefonate voi, Minzolini, il grande condannato, proprio buttarla proprio in caciara. quasi a farlo sembrare un simpaticone, che quattro risate, tutto a posto, finito, riabilitato Minzolini. Perché riabilitato non Minzolini la... non mi pare, cioè, amico mio. No, però, cioè, che ne so, prova a chiamare la Ferraio, no? Vediamo cosa. Ho già detto, ha parlato volentieri, ma non vorrà venire, chi se ne frega, cioè, no. No, chiamate Minzolini, io che è un condannato, chiamate la... chi l'ha fatto condannare? No, però guarda, scusa, il sottoscritto in particolare è stato uno che all'epoca, quando Minzolini era direttore di Digiuno, non c'è bisogno che ti spieghi, cioè, no, non c'è bisogno di spiegarsi, ti giustifichi, ma chi se ne frega? Sto spiegando, però, che la mia non è cambiato nulla, è cambiato semplicemente che questo signore ha rimborsato, ma adesso sono due casi diversi. Le proprie dipendenti, perché semplicemente perché, ma se non lo fa un direttore, ma chi lo può fare quello? Ma infatti era nel suo potere farlo, cioè andare a New York a essere demansionati. È stato condannato. Questo è curioso, semplicemente. Ma senti, è una cosa, Marco, che fate, Marco, è una cosa che fate sempre. Comunque, anche con Sgarbi, chi se ne frega se dice che i magistrati si inventano la mafia, che Saviano soffre di protagonismo, che Dell'Utri, se non fosse stato siciliano, non sarebbe mai stato condannato. Tanto poi chiama la Zanzara, dice capra, grande Sgarbi, chi se ne frega, il mitico Sgarbi. Tanto poi dove era sindaco lui, è stato sciolto per mafia. Dice le peggio boiate su magistrati che rischiano di saltare in aria. E tanto Sgarbi va da Del Debbio, dice quattro puttanate, e lei, Sgarbi, è forza Sgarbi, no? Funziona così un po' la Zanzara. No, ma Marco, ma, a parte che questo, Sgarbi, che questo non è, che questo non è un tribunale. Figo pure, ma fai pure il figo Sgarbi, perché ti dice, oh, ma tu sai quando per esempio si incazza, no? Si infervora. Sì, però le sentenze si possono pure discutere, eh? Non è che non si può discutere una sentenza, capito? Cioè, non è che non si possono discutere, capito? Uno va su uno contro uno con Sgarbi, qual è la sua tattica del cazzo? Perché dice, ma dimmi un po', tu sai chi è Gesmundo di sto cazzo? Poi magari dici, no, capa, ma fa lui. Cosa fa lui? È un critico d'arte. No, Marco, non rompesse i coglioni, facesse il critico d'arte e non rompesse i coglioni alla gente. Ce ne sono tanti migliori di lui. Ma chi Marco, no, ma io, per carità, è legittimo che tu dica queste cose qui. Tu dici uno che è stato condannato non può. Uno che è stato condannato non può. Ho capito, ma io lo posso discutere. Ma lascia perdere Sgarbi, posso discutere. Saviano soffre di protagonismo, quello lì che. Vabbè, l'hai già detto. Potrò pensare. Ma devi stare fermo. Noi diciamo quello che ci pare. Non sei tu a dovermi dire quello che devo dire o quello che non devo dire, chiaro? Dici sempre questo, Cruciani. Dici sempre questo. Ma io non dico questo. Io ti sto dicendo. Qualcuno ti fa notare qualcosa che non va. Ma no, ma stai facendo notare. Ti sto facendo parlare. Va bene, va benissimo. Se dovessimo rimproverare a ogni persona che viene qua quello che ha fatto, non finiremmo più. Manco potremmo fare la trasmissione. Dovremmo fare una specie di tribunale. Facciamo un tribunale perenne. Ora mi è venuto un altro esempio. C'è Mafia Capitale. Chi se ne frega? Tanto chiamiamo come si chiama? Ferrara, che diciamo che sono quattro ladri di polli. Ha detto la sua opinione, no? Tutto in caciara. Sì, ma chiamate sempre. Ma perché adesso hai scoperto che noi ogni tanto la buttiamo in caciara, no? Capito? Lo scopri adesso? Ma no, dai, Sgarbi, quasi sempre. Ma lo scopri adesso che ogni tanto noi la buttiamo in caciara? Oppure io non ho capito. No, vi seguo da sempre, sono molto un ascoltatore affezionato. E allora che cos'è? Ma non è che è il Fatto Quotidiano che questo qua, cioè, ma di che stiamo parlando? Sempre che c'è un fatto di cronaca, si cerca di prendere dal lato più dolce, no? Ma quando mai, dolce. Sì, il lago più dolce, è esattamente il contrario. Vabbè, Marco, ciao. Allora, io ho sempre questo grande sondaggio da fare, questo grande sondaggio che è quello sui transessuali. Mi sono fissato su questa cosa qua, perché, ripeto, tutto nasce da un intervento della signora Vladimir Luxuria, la quale ha detto: i ragazzi vanno coi trans qualche volta per provare, poi mai più, alcuni si appassionano, ma la maggior parte non è attratta dai trans come surrogato della donna, ma perché è una creatura sui generis con cui puoi essere attivo e passivo. L'omosessuale ama la mascolinità e i trans sono molto femminili, anche nella sensibilità, si sentono donne. Cioè, sostanzialmente, chi va a trans non è assolutamente omosessuale. Ieri sera, a un certo punto, è arrivata la telefonata pazzesca di Giacomo da Torino, un gay dichiarato, autista, un vero tipo da Zanzara, che io in sintesi farei riascoltare. Penso che sarà una telefonata molto significativa per questa grande Una testimonianza incredibile, molto importante, importantissima. Abbiamo Giacomo da Torino, vai Giacomo. Sì, ciao Cruciani, ciao parente. Ciao, ciao, di che mi vuoi parlare? Allora, io ti ho sentito qualche settimana fa dire che chi va con i trans non è assolutamente frocio. E che cos'è che non va in questa cosa? Ma una volta citare femminile un trans che ha 20 centimetri di minchia in mezzo alle gambe? Cos'ha di femminile un... Scusami, se tu sei etero e vai così, con il trans, professore, il trans, per carità, ha le sue belle tette, ok? Sì. Ma c'ha anche 20 centimetri di minchia. Quando questo l'ha ripetuto chiaro il concetto, tette, per toccargli le tette, tu lo senti che gli diventa duro. Cosa c'è di femminile? Scusi, professore, c'è un ascoltatore, uno che può, ad esempio, citare l'articolo di Zingales di domenica sul Sole 24 Ore? Sostanziale non lo prende al massimo, te lo non te è vero, questo non è vero, no, questo no, non no, è vero. Lo prende per soldi, perché vieni a dire no, non è vero, io conosco un sacco di persone, conosco qualche transessuale che lo fa anche non solo per soldi, che ama quella. È un transessuale falso come Renzi. Ma io invece, che, io invece come ti sembro? Che ne so, magari hai qualche giudizio tu, pure su di me. Procio 100%, guarda, ma sono più sicuro che tu sia procio di quanto che il mio pullman abbia un motore V10 sotto. Ma tu che fai? Guarda, l'autista, che fai? Assolutamente sì, autobus da turismo. Autobus da turismo. Dunque, conosci figura di là, rimorchi come un pazzo lì, figuriamoci. Sì, sì, sì, assolutamente. Voglia con le scolaresche, ragazzi, guarda una scolaresca. No, beh, aspetta, scolaresche, scusa. Quanti anni hanno? Quanti anni hanno? Quanti anni hanno? Vabbè, io ti parlo di quarta e quinta superiore, quindi ti parlo comunque di persone. Quante quinte superiori, sempre minorenni sono. Allora, il grande sondaggio è aperto, naturalmente, cioè chi va a transessuale, sono molti in Italia, anche nelle, no, tra avvocati, notai, imprenditori, industriali, giornalisti, eccetera, eccetera. E alla fine, secondo voi, è gay o no? È gay o no? La mia risposta è no. Parezzo, tu conosci gente che va con trans? No, francamente no, non conosco. Ma tu, ma il mondo reale lo conosci o no? Adesso, cioè il mondo vero, non il mondo vero. Alle 20:49. No, ma il mondo vero, il mondo vero. Il mondo reale è anche quello che va a fare la spesa ai mercati generali, no, la mattina. Ma io infatti frequento tutti e due. È quello che, ecco, non è quello esattamente che va a transessuale. Il mondo reale non è quello che vuoi far spacciare tu, per no, mondo reale. No, gente no, che lecca piedi, gente che non si lava per dei giorni, non è esattamente questo. Ma il mondo come reale, no, fine, come no. Gente che non si lava per giorni, gente che non fa regali ai nipotini per Natale, non è esattamente questo il mondo reale. Va bene, Marco da Como, vai. Marco, ciao. Dimmi. Innanzitutto non so perché perdi tempo con Parenzi a parlare di sesso, donne, recitazioni. Sì, no, ma effettivamente che gli interessa poco quello. Sì. Comunque, volevo dire due cose. Questo è Marco da Como? Sì, Marco, sì, da Como. Sono qua con la moglie intanto. A che ora torna a casa, Marco? È molto difficile. Te la passo? Ti conosco, te la passo se vuoi, guarda, è qui. Sì, è qui. Allora, no, volevo dire un'altra cosa. Parla alla radio tu intanto, che mi occupo io qui. Vai tranquillo, parla alla radio. Vai, parla Marco Cruciani, divertiti. Sei innocuo, vai. Sì, c'è. Due cose. Parla alla radio tu intanto, io sono qui con tua moglie. No, vai. Una cosa seria. Sì, vai, Marco. Secondo me la cosa te più grave della Boschi è l'arroganza che ha avuto non nel dire come ministro porterò le mie giustificazioni, farò vedere che io sono innocente, ma semplicemente tanto non avete i numeri, fate quello che volete. Mi sembra che si dovrebbe dimettere per questa frase. Perché cosa? È inaudito. Che quale frase? Quando gli hanno chiesto la fiducia, la risposta della Boschi è stata: fate quello che volete, tanto non avete i numeri. Sì, è una frase un po' arrogante, nel senso, una frase di chi è sicuro del fatto che questa roba qui non passerà. Cioè, questo è il punto. Cioè, Marco, ma insomma, fossero questi gli atti di arroganza, non mi pare una cosa di arroganza. Cioè, sono sicura che la mozione di sfiducia non passerà. Qual è il problema? Vabbè, non ti sento, dai. Io chiuderei però rimandando Gianmarco Tognazzi nel suo film che uscirà, Il Ministro. Il Ministro, capito? Ragazzi, a domani, ciao. Perché ho comprato questi? Eh? Avevo ordinato quelli vegetariani, perché? Erano finiti. Ah, erano finiti? Sì, erano finiti. Beh, strano, perché ho detto al negoziante di mettermeli da parte. Di la verità, tu non l'hai comprati per il prezzo, eh? Vuoi la verità? Sì. Sì, non l'ho presi per il prezzo, sai perché? Perché trovo immorale, trovo assurdo spendere 70 euro per dei cazzo di croccantini vegetariani!